Ed eccoci di nuovo in diretta su Radio Onda Rossa 87.9 in FM, lo streaming sul sito internet www.ondarossa.info e ricordiamo naturalmente il numero per telefonare, visto che oggi ci attendiamo. Oh, ci siamo persi il microfono anche quest'oggi, ricordiamo per l'ultima volta, questa non è una radio fatta da professionisti, una radio fatta da militanti, e quindi i problemi tecnici sono all'ordine del giorno, e proprio per questo vi invitiamo anche a versare i vostri contributi al conto corrente postale 61804001 intestando il bollettino a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via De Volci 56 00185 Roma. Dicevamo, oggi vogliamo tante telefonate, il numero di telefono come al solito è lo 06 49 17 50, perché andiamo a incominciare una trasmissione, dibattito su quello che possiamo imparare dall'esperienza zapatista. Siamo qui con i compagni e le compagne del Nodo Solidale, io sono la voce che di solito è quella di Latinoamericana, la trasmissione del comitato Carlos Fonseca, e abbiamo fatto negli ultimi mesi numerose trasmissioni sull'esperienza zapatista. Vi mando anche lo spottino che spero che avete ascoltato per radio su internet in questi giorni, per vedere un po' con quale spirito affrontiamo questo dibattito quest'oggi, che appunto, come dicevo, vuole essere un dibattito soprattutto con chi ci sta ascoltando in questo momento. Vabbè, il solito problema tecnico, mi scuso ancora una volta, qua ci tocca fare tutto, lo sappiamo, l'auto-organizzazione anche questo. Vai con lo spottino. Cercare di riassumere la storia delle Z per andare un po' oltre l'immaginario. Nell'ultimo mese abbiamo fatto numerose trasmissioni sulle ZLN e l'esperienza dei Caracoles zapatisti. La storia di un piccolo gruppo di 6 persone che il 17 novembre del 1983 raggiunsero la Selva Lacandona. Perché non si può immaginare il progetto di autonomia senza un territorio. E non si può immaginare la capacità di mantenimento anche economico delle strutture, delle stanze autonome, senza una capacità autonoma di produzione. Cioè è un territorio che viene gestito da un sistema di assemblee molto complesso. Il meccanismo di delega è revocabile e gratuito. E dopo aver raccontato tutto questo, le trasmissioni le potete riascoltare sul sito comitatocarlosfonseca.noblogs.org. Vogliamo discutere insieme a voi di quello che possiamo imparare dall'esperienza zapatista. Senti, ma come dobbiamo fare per far chiamare gli ascoltatori? Tanto per cominciare, non parlate forbiti, parlate semplice, se no sembra che dite tutti voi e quella ascolta dice io che cazzo telefono a fa, e poi ogni tanto ne lanciate la provocazione affinché qualcuno si sente toccato e telefona. Lunedì prossimo 23 gennaio 2014 su Radio Onda Rossa 87.9 in FM dalle 10.30 alle 12.30, il numero per telefonare è lo 06 49 17 50. Forbiti, non parlate forbiti, parlate come magnate, semplice. E vabbè, in questo spottino abbiamo sbagliato anche la data, visto il caldo, non è evidentemente oggi il 23 gennaio, ma il 23 giugno, sono le 10.43 su Radio Onda Rossa, però l'importante è che siamo qui per discutere di questa cosa. Noi appunto crediamo che si possa molto imparare dall'esperienza concreta zapatista, che va avanti ormai da 30 anni, 20 anni dal levantamento del 94 e che ha ormai 20 anni di autogoverno popolare nei territori dei Caracoles zapatisti. Io saluto tutti i compagni e le compagne che sono qui con noi. Noi però volevamo iniziare ricordando l'episodio che abbiamo già denunciato più volte in trasmissione su queste frequenze, ossia l'aggressione subita da il Caracoles della Realidad il 5 maggio scorso, che ha visto anche l'uccisione, l'assassinio del compagno Galeano. Ciao a tutti, appunto come diceva il compagno, iniziamo anche questa volta col ricordare, anzi col denunciare quello che è avvenuto lo scorso 2 maggio, ovvero che per la prima volta nella storia, dalla loro creazione, uno dei caracol, precisamente il caracol della Realidad, quindi una roccaforte della resistenza zapatista, è stato attaccato da un gruppo di paramilitari legati alla sigla della COAC e stipendiati dal governo messicano. Un attacco barbaro che ha portato alla distruzione, alla devastazione della scuola autonoma e della clinica autonoma all'interno del Caracol e, oltre al ferimento di diversi compagni, anche all'uccisione appunto del compa Galeano, un compagno che aveva un particolare ruolo, un particolare incarico all'interno della propria comunità e era stato oltretutto maestro dell'escuelita zapatista. Quindi questo sottolinea proprio il fatto che fosse un attacco molto più che premeditato, anzi fatto proprio ad hoc per attaccare questa fase di percorso dell'autonomia zapatista. Quindi praticamente dal 2003, dalla nascita dei Caracol, c'era stata una divisione tra la parte civile che ha continuato a camminare verso il perfezionamento del proprio sistema di autogoverno e la parte invece politico-militare che si è ritirata nella selva a difesa, come esercito di difesa dell'autonomia zapatista. Ecco, proprio di fronte a questo attacco le comunità hanno richiamato l'esercito, che adesso sta presidiando, quindi con tutte le varie cariche militari, il Caracol della Realidad, e lo stesso subcomandante Moisés sta portando avanti le indagini per fare giustizia del compagno Galeano. Giustizia e non vendetta, si è ricordato nei comunicati, in quanto la sola vera vendetta è contro il sistema capitalista. E quindi, diciamo, in un certo senso le ZLN ha lanciato una data di mobilitazioni per il 24 maggio a livello internazionale. Anche noi da Roma abbiamo risposto con delle piccole iniziative, volantinaggi, e mentre proprio nel Caracol della Realidad si è tenuta la commemorazione per il compagno Galeano, che un po' è tornato a risorgere grazie anche all'autoeliminazione, all'eliminazione totale della figura del subcomandante Marcos. E appunto, infatti, l'ultimo comunicato viene firmato subcomandante insurgente Galeano. Bene, noi naturalmente continueremo a dare risalto a quello che sta avvenendo nel Chiapas dopo quest'atto, che abbiamo ricordato più volte non ha precedenti nella storia delle comunità zapatiste, perché un attacco diretto a un caracol non si era mai realizzato. Già dalla denuncia che hai fatto te uscirono fuori alcuni temi importanti. Noi naturalmente ci siamo fatti una scaletta qui di temi da affrontare che vogliamo discutere con voi, però vediamo un po' pure che esce fuori da questa cosa, perché tu hai parlato sia della divisione tra il potere civile e il potere politico militare, sia della giustizia, che abbiamo visto è un tema interessante pure da affrontare. Prima ci siamo dimenticati di dirlo. Non so se vogliamo iniziare da uno di questi due temi. La giustizia, perché appunto si parla di giustizia e non di vendetta. Abbiamo visto come appunto noi, partendo da una opposizione totale al carcere, però vediamo che poi c'è il problema di far valere la giustizia nei territori zapatisti, e su questo anche hanno trovato delle soluzioni molto interessanti i compagni che abitano il Chiapas. Quindi magari se vogliamo affrontare uno di questi due temi, possiamo vedere che esce fuori. Noi ricordiamo che ovviamente daremo spazio a tutte le telefonate, il numero di telefono è lo 06 49 17 50. Sì, in effetti forse è il caso di fare un attimo chiarezza su quello che ha detto il compagno riguardo la separazione fra la sfera militare, politico-militare, e la sfera civile dentro i territori liberati dalle ZLN. Lo facciamo anche per dare poi, proiettare una certa luce e trasparenza sui discorsi che seguiranno, perché penso che oggi nella giornata uscirà molto spesso il tema di come si pratica l'autonomia e come si difende l'autonomia e che come si prendono le decisioni nella parte civile e nella parte politico-militare. Allora, quando le ZLN nel 1994 insorge e quindi fa di questi contadini dei ribelli armati, cioè degli insurgentes, dei militari, che occupano sette capoluoghi e poi si ritirano sulle montagne, e su queste montagne, ovvero nei loro villaggi, non è un territorio alieno ma è un territorio proprio, e cominciano a praticare l'autonomia, e anche se con molte differenze rispetto ai schemi delle guerriglie del centroamericane, in qualche modo però le ZLN mantiene quella che è la struttura politico-militare sul territorio, e questi territori liberati vengono gestiti da questa struttura stessa. Cioè stiamo parlando di anni in cui ogni insieme di comunità, a ogni gruppo di comunità fa capo un comandante, e qualsiasi tipo di relazione si cercava di portare avanti, fosse un progetto, fosse un problema di convivenza, veniva presentato all'autorità competente, in quel caso era il comandante militare, cioè il guerrigliero. Questo sono pratiche in realtà che sono presenti in tutte le guerriglie che abbiamo conosciuto, no? I zapatisti però, questa, diciamo, quindi questa, in qualche modo la gente continuava a auto-organizzarsi anche in quegli anni, perché comunque l'auto-organizzazione attraverso le assemblee del villaggio è una pratica che non è promosso le ZLN, è una pratica in qualche modo insita nella pratica, nella cosmovisione dei Maya che popolano queste montagne. Però spesso quindi la risoluzione dei problemi che si faceva attraverso l'assemblea doveva essere comunque avvallata, confermata, o comunque si confrontava e si scontrava con invece l'autorità politico-militare messa lì dalle ZLN, dalla parte degli insurgentes. Quindi diciamo negli anni, e questa forse è la chiarezza che hanno avuto i compagni e le compagne delle ZLN, è stata quella di individuare un nodo difficile soluzione, che è quanta democrazia c'è in un territorio liberato messo sotto a disposizione di un comandante comunque militare. Le ZLN, sappiamo, ha sempre detto che è un esercito di sognatori, un esercito che fa la guerra finché non ci sia più guerra, finché non ci sono più eserciti, quindi un esercito destinato a scomparire una volta raggiunto l'obiettivo. In questo senso queste sono parole molto romantiche, sono state ripetute tante volte, ma in realtà hanno avuto una ricaduta reale. Quando nel 2003 nascono i 5 Caracol Zapatisti, che sono quindi unità amministrative autonome che gestiscono un territorio, un pezzo di territorio autonomo, appunto 5, si prende atto e si fa pubblica una divisione di poteri. Quei territori che erano sotto la giurisdizione di comandanti militari passano totalmente nella gestione delle questioni civili a delle autorità civili che sono elette attraverso un sistema di assemblee che magari approfondiremo, e per cui tutte le decisioni di tipo civile, la costruzione di un ponte, la distribuzione del cibo, il collegamento fra comunità, i problemi interni di una comunità, passano in mano alle autorità civili, ovvero alle persone, agli uomini e alle donne che vivono nei villaggi e che quindi hanno una percezione totale e il polso di quello che si sta parlando. Perché spesso l'autorità politico-militare, molto preparata appunto in termini politici, in massimi sistemi, in tecniche di guerriglia, in tattiche di approvvigionamento e mantenimento della truppa, in realtà poi non hanno spesso una capacità di intervento sui problemi quotidiani e reali della comunità civile. Quindi la ZLN accoglie, e attraverso un'azione politica precisa che è la nascita di Caracol, sancisce in un comunicato pubblico la divisione, la sfera politico-militare, quindi le ZLN, l'esercito zapatista di liberazione nazionale propriamente detto, e la società zapatista. Quindi ovviamente noi non possiamo scindere totalmente le due entità. La parte civile mantiene la parte militare e la parte militare protegge la parte civile. Sono un tutt'uno, le stesse persone che animano la comunità sono anche le stesse che poi incorporano la milizia insurgente. Quindi non c'è una scissione reale nelle persone, sono sempre le stesse persone, solo che nella pratica quotidiana e nella presa di decisioni di tipo civile, di tipo amministrativo, di tipo riguardo la giustizia, quindi riguardo la quotidianità della vita di tutti i giorni, si sono create delle istituzioni proprie. Queste istituzioni proprie sono la Giunta di Buon Governo, il Municipio Autonomo Ribelle Zapatista e l'Assemblea Locale. Tutti coloro che fanno parte di questa sfera e che hanno degli incarichi rilevanti nella struttura civile non possono essere parte della struttura politico-militare. Quindi la struttura politico-militare, per esempio, mantiene una struttura in qualche modo piramidale, anche se andrebbe discusso questo, però in qualche modo ripercorre la struttura di tipo militare di qualsiasi guerriglia. Ovviamente un comandante è più importante di un sergente nella truppa, però è uguale nella parte politica: un commissario politico è più importante di un commissario locale. Però questa struttura, chi è partecipante in questa struttura non può ricoprire incarichi in quella civile. Questo per evitare praticamente un conflitto di interessi e una sovrapposizione degli incarichi. Quindi paradossalmente la parte organizzativa politica, quella che ha la linea più chiara da far seguire, che è la linea determinata dalla comandanza generale, in realtà non ha nessun posto di potere, tra virgolette, nella struttura civile. Questo è uno dei tanti paradossi zapatisti, che quelli che hanno più chiarezza di non possono avere un incarico. Se passano ad avere un incarico di tipo civile, devono rinunciare al loro incarico, al loro grado nella parte politico-militare. Quindi questo per ricordare quello che ha detto il compagno. Oggi alla realità, uno dei caracol, che dove da 10 anni a questa parte le istituzioni civili zapatiste, quindi il sistema di assemblee e di rappresentanti di queste assemblee che stava governando in quel momento sul caracol, ha richiesto l'intervento della parte militare, quindi delle ZLN, degli insurgentes e dei miliziani, a difesa di questa struttura, perché questa è la ragione dell'esistenza di questo esercito. Non hanno mai consegnato le armi ai zapatisti perché sanno che per difendere l'autonomia hanno bisogno di queste armi. In questo momento, alla realità, ci sono appunto gli insurgentes, ci sono le truppe rivoluzionarie a difesa di questo spazio, però come stato d'emergenza. C'è un momento, uno stato d'eccezione che è stata richiesta dalle popolazioni l'intervento dei rivoluzionari in armi. Bene, io naturalmente, se i compagni vogliono intervenire, i microfoni sono aperti, e anche chi vuole chiamare da casa o da dovunque sia, il numero di telefono 06 49 17 50. Abbiamo visto insomma questa differenza tra potere civile e potere politico militare. Abbiamo visto anche che è stato, diciamo, l'esito di un processo che è partito 30 anni fa, no? Io avevo preso qualche parte dell'ultimo discorso di un tale che abbiamo deciso di non nominare in questa trasmissione, quindi se qualcuno vuole chiamare per parlare del subcomandante non lo può fare, gli riattacchiamo subito. Però insomma ci sono delle cose interessanti su cui discutere, no? Lui in questo discorso dice: in questi 20 anni nelle ZLN c'è stato un avvicendamento molteplice e complesso. Poi salto qualche riga: il più importante è l'avvicendamento di pensiero, dall'avanguardismo rivoluzionario al comandare ubbidendo, dalla presa del potere dall'alto alla creazione del potere dal basso, dalla politica professionale alla politica quotidiana, dai leader ai popoli, dall'emarginazione di genere alla partecipazione diretta delle donne, dallo scherno per l'altro alla celebrazione della differenza. La cosa che mi sembra importante di questo discorso è che lui dice che questa appunto è una cosa che si costruisce col tempo, che non è che si dà automaticamente dal momento in cui uno prende il potere in un posto, perché poi io penso che pure questa è la questione che spesso ci si dimentica, insomma, che c'è stato questo levantamento, questa presa di un territorio. Tu raccontavi l'altro giorno, ti aveva detto un in Chiapas, sin guerra no hai nada, ti ha detto un compagno del, quindi forse è bene ricordare pure questa cosa. Non lo so, voi su questo ci avete qualcosa da aggiungere, oppure andiamo avanti? Perché non, no, diciamo che praticamente una delle cose che mi affascina di più dello zapatismo è che spesso riesce a trovare delle soluzioni che magari possono sembrare tirate fuori così dal cilindro, di punto in bianco, a problemi, a dubbi che uno si pone sempre di fronte quando si immagina la possibile società liberata, no? Appunto, affrontavi prima la questione della giustizia, o magari si può pensare al lavoro, spesso ci si riempie quindi la bocca di semplici slogan. E invece quello che è riuscito in un certo senso a fare le ZLN è riuscire a mantenere un tipo di movimento armato con controllo del territorio da oltre 20 anni dopo la fine della guerra fredda, senza una superpotenza che lo appoggiasse, anzi facendone addirittura a meno, non ne abbiamo nemmeno bisogno, e stravolgendo totalmente ogni tipo di paletto, in un certo senso. Quindi sono riusciti a capovolgere tutti i tipi di accusa che di solito le stampe o le destre hanno sempre apportato alle guerriglie o ai regimi comunisti classici. Quindi c'è stato un totale stravolgimento che in un certo senso ha sconvolto il mondo e ha fatto cadere ogni tipo di accusa, impedendo spesso e volentieri proprio per questo particolare sostegno che gli è venuto da parte dell'opinione pubblica, della cosiddetta società civile, in quanto appunto i zapatisti si sono accorti che dopo un certo periodo non era più il caso di dover parlare di presa del potere, di armi. Quindi hanno reinventato un certo tipo di linguaggio che potesse diciamo andare bene per la società civile della fine degli anni 90, insomma. E questa cosa è stata comunque grandiosa e ha permesso anche di evitare, proprio grazie anche a questo appoggio, attacchi frontali da parte dell'esercito. E quindi il governo si è dovuto destreggiare di fronte a questi rapporti di forza, di fronte a questa posizione anche da parte della società non zapatista, a dover ricorrere ad altri metodi, come per esempio quelli più sporchi, attraverso i paramilitari o attraverso per esempio dei progetti economici e degli aiuti finanziari a chi lasciasse l'organizzazione, in un certo senso. Quindi si è riusciti a mettere alle strette il governo, molto più che con le armi, però attraverso l'autonomia, attraverso la parola. Questa è stata una cosa che, diciamo, cui il mondo non era preparato, però che ha colpito. Vai, microfoni. Io per aggiungere una cosa alla riflessione del compagno, penso che si è usato anche nel titolo di un testo di Raul Zibeghi che si chiama Il paradosso zapatista, no? Questa espressione, per leggere lo zapatismo si parla in termini paradossali, no? Penso che ora proprio mi veniva in mente, ascoltando quello che si diceva nel dibattito che è appena iniziato, il paradigma politico con cui possiamo leggere lo zapatismo, secondo me, può essere uno dei paradigmi politici, è proprio il concetto di ascolto, la capacità di ascoltare da parte di questo primo fuoco guevarista. Parliamo di 6 persone, 5 uomini e una donna, che all'inizio degli anni 80 entrano nella selva da Candona e arriviamo fino al 2014 con l'esperienza, ormai il primo livello delle squalide già è passato e quindi ci prepariamo al secondo livello delle squalide zapatista 2013-2014, dimostrano una continuità di questo paradigma dell'ascolto, la capacità di essere metamorfosi, di trasformarsi da parte di questo nucleo guerrigliero di tipo classico, diciamo fuoco guevarista inizio degli anni 80, che ci porta fino all'esperienza delle squalide zapatista. Li leggevo proprio in un testo del 2012, Ellos y nosotros, dove si parla proprio di questa capacità. Mi ha colpito molto ieri rileggendolo e mi sembra proprio che sta nel dibattito che stiamo aprendo, è la capacità di perfezionarsi di un'organizzazione politica, cioè questa consapevolezza che solo attraverso l'ascolto del contesto reale, materiale in cui si vive e quindi le esigenze che stiamo costruendo, si possa avere questa capacità di perfezionarsi. Le squalide in qualche modo rappresenta un po' questo, in una presentazione dibattito che abbiamo avuto nello spazio delle Cagne Sciolte l'8 giugno, una bella discussione in particolare sul taglio, diciamo, di genere, su come le donne hanno partecipato e partecipano all'autogoverno e all'autonomia zapatista, si è centrata questa questione, questa capacità di perfezionarsi attraverso quella che secondo me in questi libretti pubblicati, questi testi che sono stati in materia delle squalida, è stata un po' un'analitica dell'autonomia. Cioè loro ci raccontano quotidianamente i limiti e le opportunità che hanno trovato nella costruzione dell'autonomia. Questa capacità di autoascolto e di consapevolezza è qualcosa di importante che può ispirare le nostre pratiche quotidiane di resistenza e di lotta. Sì, questa mi sembra una cosa veramente interessante sulla questione dell'ascolto, no? Io prima parlavo pure della questione della vergogna che Marcos, aveva inserito nel discorso, che ha detto ci vuole molta organizzazione, un po' di vergogna, e su questo appunto parlavamo prima. Magari dopo riportiamo quello che stavamo dicendo, la vergogna intesa come umiltà, come capacità di non determinare le scelte ma ascoltando gli altri. Io volevo solo specificare per chi ci ascolta che abbiamo già detto più volte questa ammirevole capacità di ascolto che a sua volta implica per gli zapatisti la capacità di trasformazione sia delle proprie istanze sia delle proprie pratiche. Non significa abbandonare dei principi che rimangono ben saldi. Spesso noi abbiamo sentito un sacco di guerriglie si sono trasformate poi in partiti che poi si sono trasformati in ministri e in governi. L'esperienza latinoamericana ci insegna che tanti gruppi che erano nelle montagne, nella selva, oggi siedono al gabinetto e sono ministri, dando questa svolta a sinistra America Latina che però non ha risolto i problemi, non ha neanche in qualche modo frenato le politiche neoliberiste e non ha risolto soprattutto i problemi. Probabilmente ha dato un colpo all'oligarchia, ma non ci troviamo lontani dal punto di partenza. Ora, la trasformazione dei zapatisti invece va in senso opposto, cioè mi piace la definizione che dal compagno hanno perfezionato, hanno aggiustato il tiro ascoltando la base, però ascoltando anche i gruppi esterni, cioè i zapatisti erano pronti a fare una guerra, a marciare su Città del Messico o a morire nel silenzio, cioè o a morire nella battaglia invece che nel silenzio. Questo non è avvenuto. La richiesta di costruire, di lasciare le armi come strumento di trasformazione politica e utilizzare quindi l'autonomia non si è dato da un giorno all'altro, ma è avvenuto per la pressione della società civile. Non ha risposto un proletariato in armi come forse si aspettavano e neanche dei contadini in armi. Ha risposto questo soggetto che a volte in Italia è pure difficile da definire, perché quando in Messico si parla di società civile si parla in realtà dal basso. Non è una classe media illuminata come a volte viene definita la società civile qua, soprattutto in certi ambienti, però neanche un soggetto in forma. In Messico si cominciava a chiamare la società civile tutti quei settori della popolazione che dopo il terremoto dell'85 hanno ricostruito Città del Messico dal basso, hanno cominciato a lottare per richiedere casa nella ricostruzione contro la speculazione del governo e l'inefficienza del governo. A tutta quella rete di persone che non erano nei partiti ma che si stavano organizzando dal basso e che erano dei quartieri popolari, erano proletari e proletarie, era gente che viveva nella strada, si è chiamata società civile. Quindi pure quando gli zapatisti parlano di società civile stanno guardando in basso, non stanno guardando a una classe media. E quindi quello che voglio dire è che la capacità dei zapatisti quindi di rinnovarsi, dove rinnovarsi non significa correre verso il centro come spesso hanno fatto altri gruppi e anche altre, sfortunatamente, altre esperienze della guerriglia. Quindi è stata una capacità di ascoltare in basso e di continuare a mantenere l'organizzazione verso il basso. E questo ha permesso grandi trasformazioni, come citavamo prima, e il fatto che quando, guarda, senza andare troppo indietro, ma io stesso nel 2006 sono arrivato in Messico, sono andato a vivere in Chiapas, e la presenza delle donne nella giunta di buon governo era minoritaria. Era molto evidente che erano gli uomini. Oggi nelle giunte di buon governo, per esempio, c'è il 50% delle donne e il 50% degli uomini. Questo non significa ancora che le donne abbiano lo stesso peso che hanno gli uomini, il cammino è ancora lungo in questo senso, però possiamo dire senza dubbio che è stato un miglioramento evidente della partecipazione politica delle donne. Queste sono le reali trasformazioni che ha innescato lo zapatismo fra la sua base. Bene, abbiamo una prima telefonata, ci senti? Sì, vi sento bene. Bene, ho fatto la radio così evitiamo ritorni. Vai, vai pure. No, io sentivo con interesse il vostro dibattito e non volevo né tantomeno fare dei cappelli né riuscire a usare dei tempi radiofonici perché tendo ad allargarmi. Però volevo solo dire una cosa, secondo me l'importanza fondamentale che noi anche, cioè che comunque guardiamo fuori da noi anche per capire meglio noi, è un po' il discorso che voi ripetevate, cioè di fondo loro hanno fatto una cosa importantissima ma semplice e difficile allo stesso tempo, ovvero un processo che era partito come in un periodo di riflusso, anzi come ricordavi tu i tempi in cui una prima comandanza diciamo raffazzonata o comunque che partiva da posizioni diverse ma comunque da un antagonismo che sfociava chiaramente in quel concetto di chiavarismo che ha dominato l'America Latina dalla morte di Chiavara in poi ma anche da quel periodo. Loro sono riusciti a innervare un discorso prettamente culturale delle comunità, ovvero dei gruppi che non venivano considerati, perché appunto al di là dei documenti, là c'è un discorso che per esempio il primo appoggio che hanno dato insomma le persone a livello di progetti, oltre alle turbine anziché le cose oggettive, sono stato un discorso di scambio reale, che è proprio la modalità di cui parlate voi, il comandare ubbidendo, l'ascoltare prettamente, quindi questa cosa incentrata sull'ascolto, è anche dato dal fatto che loro per primi si sono trovati ad entrare in una selva che di per sé era luogo mitico per chiunque, come posto dove rimettere le idee insieme e andare avanti, e hanno trovato che invece quello che loro volevano portare, cioè l'idea ribellista, scusate il termine, ma in realtà è molto di più, che c'era dietro agli strascichi del pensiero di Guevara e quindi a determinati progetti rivoluzionari che sono ancora adesso giudicati in maniera differente anche a sinistra, compreso per esempio le FARC, che lì, cioè quando lo sono arrivati c'era già l'EPR, c'erano parecchi gruppi rivoluzionari che avevano un'idea prettamente marxista applicata a una realtà locale che però era fatta sì di guerra di guerriglia, di attacchi, di ragionamenti di questo tipo, però prettamente slegata dal contesto locale, trovandosi nel voler applicare e dare forza a un ideale diciamo appreso sui libri nella propria esperienza, sono trovati di fronte delle popolazioni che parlavano tanti dialetti diversi e che vivevano già una condizione di sfruttamento primordiale, diciamo proprio connaturata alla loro stessa nascita, in quanto che appunto i conquistatori, ritorniamo a Pizarro e quant'altro, e tutta quell'area che comunque fu dominata e cambiò da una parte anglofona, un'altra francofona, un'altra spagnola, perché è la zona che è così. Loro quindi hanno dato seguito utilizzando il concetto di caracolla, di conchiglia, quindi di voce che fa eco e ritorna da dove è partita. La stessa idea di subcomandante è bella, ma soprattutto è importante l'aver utilizzato lo strumento del potere contro il potere. I nuovi media, la rivoluzione industriale, che all'epoca, industriale intesa come informatica, scusate, che era stava salendo, e quindi noi parliamo del 94, loro scendono con lo stesso obiettivo ragionato di anni di vita in comune, ovvero le istanze rivoluzionarie prettamente di stampo europeo, marxista o di derive a sinistra o di sinistra, sono comunque riuscite a innervarsi su un tessuto di voglia di diritti, volontà di diritti, che non è un diritto inteso come noi lo conosciamo, la nascita, l'esistere, proprio l'esistenza, come dicono, è proprio un diritto a non essere rispettati, cioè a sentirsi occupanti di un territorio che in realtà ne subiscono un'occupazione, perché se non c'è diciamo uno scambio, loro non possono neanche eleggere dei rappresentanti, perché tutto ciò è legato a un numero di senza volto, che sono le persone non censite, le persone utilizzate nell'agricoltura, le persone che servono da manodopera ai coyotes per poi ricavare delle somme comunque basse ed essere schiavi degli schiavi degli schiavi degli schiavi di un sistema capitalistico di tipo industriale, che nel Chiapas va a prendere risorse naturali e caffè. Detto questo, siccome il Messico è il secondo produttore, i progetti che aveva fatto Iabasta erano di fondo anche legati a un sistema cooperativistico che ha risposto alla chiamata raccolta da tutto il mondo attraverso un discorso che dopo tanti anni era per la prima volta poetico, rivoluzionario, allo stesso tempo sapeva toccare i cuori e le coscienze delle persone, capaci di aprire gli occhi e il cuore all'altro. Di conseguenza loro sono innervati su un discorso di teologia della liberazione dell'America Latina, per cui hanno avuto anche appoggi fino a un certo punto da parte della Chiesa, e comunque ci sono stati degli omicidi politici importanti, però allo stesso tempo loro hanno costruito un rapporto che è la cosa secondo me più importante, ovvero sono riusciti a mettere letteratura e politica insieme, perché se le origini del tale personaggio di cui non vogliamo parlare sono comunque passate per un discorso che partiva dalle cattedre dell'università e da una vita che è stata nei punti importanti anche di ragionamento mondiale, la Parigi di un certo periodo, anziché altre cose. Questo può essere leggenda o realtà, ma è proprio la stessa cosa che domina l'universo simbolico zapatista, cioè il fatto che loro dicevano nos vemos en 2012, insomma, questa cosa era dovuta al fatto che l'idea era non solo, diciamo, avere un anniversario di quello che era Zapata realmente, quindi di quella rivoluzione, ma soprattutto far presente che tutto era possibile nel momento in cui gli altri si mettevano nella dimensione dell'ascolto attivo, che è anche risposta, che è il motivo per cui c'è un subcomandante e non un comandante, perché il pueblo manda e il governo obbedece. Il discorso poi prettamente di difesa, che puntate su discorsi, secondo me, militari o meno. Quelle sono delle specifiche, se poi uno vuole andare ad approfondire il discorso zapatista, che però ha un universo simbolico che affonda realmente nella tradizione maya, non quella del millenarismo, della fine del mondo, gesticolato e manipolato ad arte da gente che deve pagare qualcosa, deve pagare un affitto, non lo so, ma in realtà c'è un discorso serio: ciclicità della natura, utilizzo delle risorse. E quello che loro hanno capito, mettendo insieme un ideale che non trionfava, perché c'era il sandinismo che portava delle cose in quel periodo, in quell'area, ma non c'erano dei reali testimonianze che comunque quest'idea di sinistra sudamericana tout court, uscita da regimi militari, in incognito, comunque nascosta, perché partecipa di una ribellione, di una guerra di guerriglia, che appunto Guevara ha indicato in questi scritti, ed è morto proprio in un posto non, cioè, che fa parte di quel punto in cui è morto. Cioè, Guevara ha girato tanti posti, ma non è morto in Africa, non è morto in altri, è morto in America Latina, e ha lasciato un'eredità. La stessa discorso pittorico che si vede quando loro vanno a partire dalla terra e dal mais, e poi questo mais diventa Che Guevara, poi diventa Zapata, insomma, il discorso del tempo, e poi diventa lui. In realtà è un discorso iconografico in cui si fonde anche la figura del Cristo, cioè il discorso di salvazione. Loro poi sono stati bravi a utilizzare la loro autonomia in senso totale, cioè non è la liberazione, cioè posso utilizzare il gancio di una popolazione che vive un cattolicesimo, il Messico, dominato da un certo tipo di cattolicesimo profondo e di stampo spagnolo. Quindi questo ideale molto forte, questa santificazione che poi cambia lì e diventa il culto della morte, perché si va ad avere un rapporto con la vita e la morte, con la natura forte, hanno fatto sì che le risorse importanti del territorio, che era il mais e che sono altre splendide piante che per esempio la Realidad coltivano e creano biodiversità facendo laboratori prima che arriva l'università, prima che arriva il governo, perché loro stanno lì da prima. È un fatto di difesa di uno spazio. Questo spazio come si difende? Con un ragionamento culturale rivoluzionario. Quelli che sono stati i grossi pensatori, i maître à penser, o comunque persone che hanno ispirato la fantasia e l'immaginazione di ogni compagno, e meno male che qua si è usata questa espressione ancora, è stato proprio il fatto di aver costruito da un viaggio interiore e un cambiamento, che partiva però anche dalla reale percezione pragmatica del territorio. Se il territorio offre mais, cos'è che manca lì? Un sistema cooperativistico di stampo europeo e soprattutto un potere che gira tra le persone, perché lì si fa un controllo incrociato e la possibilità di far sì che la persona partecipi e sia oggi rappresentante del Caracol, dopodomani della Junta, del Buon Governo, altre volte di altre istituzioni, e passi da un frangente sociale, politico, militare che è tutt'uno. Ed è questa la bellezza. Scusami se mi allungo. Sì, stringi, perché abbiamo comunque, non andiamo fino alle 12:30, poi anche se ci no, siccome si parla poco di zapatismo, adesso anche il movimento in Italia, non voglio parlare appunto di altre cose, è comunque mal informato, perché ha perso il discorso di moda. Io volevo dire che le cose importanti sono state queste: innervare un discorso di tipo cooperativistico fatto con degli osservatori internazionali che sono anche loro stessi, per loro coscienza e conoscenza, anche scudi umani e difesa di un baluardo che è quello di un territorio, e poi di diritti, persone che vivono e ovviamente fanno una scelta radicale che, sul linguaggio paradossale che usa Marcos, ovviamente se noi gli andiamo dietro alle parole non arriveremo mai all'essenza, guarderemo sempre quel dito. La luna invece è la possibilità di creare anche dubbio alle persone sulla base del fatto che non è che domani noi prendiamo le armi e conquistiamo un paese, noi facciamo un discorso culturale che ha bisogno di tempo e ha bisogno di risorse, di apporti, fermo restando che noi siamo arrivati lì e decidiamo come si fa, utilizziamo i media e facciamo un colpo di tacco e rimettiamo in gioco tutto il discorso relativo alla rappresentanza, alla difesa degli spazi e anche ai vecchi concetti marxisti o superati o nuovamente diventati postmoderni. Quindi secondo me è un discorso sia artistico che politico, che economico, che di prassi, cioè è una cosa molto importante che purtroppo viene valutata spesso con un occhio poco addentro al linguaggio metaforico paradossale che si utilizza, e invece appunto i risultati che poi nel tempo sono stati importanti a livello di coscienza delle popolazioni locali e di scelta naturale della difesa dello spazio e di se stessi, non in quanto ideologicamente a sinistra o meno, ma in quanto permettono, e loro festeggiano il Capodanno un'ora prima dell'orario del perché è un discorso di riappropriazione di sé, e questo è qua concludo, scusatemi, mi sono allungato. Complimenti per le informazioni e per le nuove, insomma, le informazioni che passano anche per, finalmente per canali come la radio, che sono sempre un posto accogliente e bello e di compagnia. Un abbraccio e un saluto. Grazie a te. Ricordiamo che per telefonare il numero è lo 06 49 17 50. Io volevo solo aggiungere una cosa, perché sicuramente quello che dice l'ascoltatore è molto importante, cioè le modalità culturali, le proposte culturali di cambiamento, nuove modalità di interazione interpersonale, l'abbiamo anche ripreso prima, l'ascolto eccetera eccetera. Però secondo me bisogna mettere dei punti fermi materialistici, che sono un po' il presupposto di tutto questo. Cioè, tutto questo avviene in un territorio che è stato liberato attraverso un processo anche armato, avviene in un territorio dove c'è un'autosufficienza economica, quindi i discorsi culturali di autonomia sono resi possibili anche da questa effettiva autonomia economica. Quindi spesso, perché magari anche noi qui quando abbiamo discusso in radio se affrontare come affrontare questo tema, sono stati tracciati dei parallelismi con una situazione che si può vivere anche qui da noi, perché se uno comunque rimane su un piano solo culturale, ovviamente la cultura la fanno anche due individui tra loro e possono dirsi quello che gli pare, però poi quelle persone sono calate anche in una condizione materiale, e a me mi sembra molto importante la condizione materiale che si vive lì in Chiapas, per le ragioni che ho detto. C'è stato un levantamento, c'è stato una occupazione di un territorio da parte di un esercito, non un'occupazione impositiva, l'abbiamo detto più volte, un governo che obbedisce, un esercito anche che obbedisce, ma c'è anche questa forte componente materialista anche dell'autosufficienza economica. Non so se i compagni su questo vogliono aggiungere qualcosa, mi sembra che già ci stanno tanti spunti per il dibattito. Chi volesse chiamare, il numero è lo 06 49 17 50. Beh, innanzitutto ringraziare chi ha chiamato, che ha un'idea abbastanza profonda e complessa di quello che avviene e è avvenuto in Chiapas, e che forse troppe cose messe insieme molto azzeccate, che l'obiettivo di questa chiacchierata in realtà è un po' vivisezionale, cioè, perché chi non conosce il tema forse sente troppe cose insieme, perché quello che dice il compagno è vero. Eppure, come dici tu, cioè gli elementi culturali, gli elementi politici, gli elementi economici, gli elementi ideologici, in realtà sono perfettamente bilanciati e sono tutti presenti. A volte, spesso, noi per posizione politica o per vissuto tendiamo a favorire uno o l'altro, quindi incentriamo le nostre campagne politiche su il tema economico, sul tema del lavoro, la contraddizione capitale-lavoro, e ci dimentichiamo gli altri. Oppure siamo totalmente presi dalla difesa della vita, dalla prospettiva ecologista, delle nostre lotte, e ci dimentichiamo quali implicazioni invece poi ci sono nella realtà di sfruttamento. Oppure ci dedichiamo al tema culturale questo, e lasciamo da parte in qualche modo lo scontro reale con il capitale. Cioè, non perché la parte culturale non sia reale, però in qualche modo spesso, mi permetto di dire, noto un certo disequilibrio. Quando dico questo, guardo anche un compagno che ha militato per più di 10 anni qua in Italia prima di andare a vivere in Messico. Eppure, quando ripercorro la mia storia politica, mi rendo conto che abbiamo sempre cercato di dare un peso a un tipo di lotta o a un certo tipo di fronte nella lotta, dimenticando che in realtà l'equilibrio di tutte queste lotte e di tutta della nostra presenza conflittiva nella società a creare l'alterità, a creare la possibilità. I zapatisti questo l'hanno ben presente. Ovviamente non stiamo parlando di un individuo che si approccia in una lotta, stiamo parlando di decine di migliaia di persone organizzate in una struttura che può fare in questo modo complessiva la partecipazione alle lotte, cioè può pensare allo stesso tempo a difendere il territorio e quindi, per esempio, preservare la natura, cioè la capacità di mantenere i nostri territori e di poterli vivere senza la devastazione ambientale che il capitalismo implica. È anche una delle parti interessantissime delle lotte zapatiste. Non hanno mai fatto un manifesto ecologista gli zapatisti, ma essere parte della madre terra, essere al centro di una cosmovisione, o neanche al centro, forse è sbagliata questa definizione in termini filosofici, perché l'uomo e la donna zapatista non è al centro del mondo, è parte di un mondo in cui la quercia, la montagna e la gallina sono compartecipi di quella visione. E quindi questo è un modo culturale, ma in qualche modo è una visione che cambia, cioè cambia la visione sistemica delle cose, perché colloca l'uomo e la donna in una posizione che non è quella antropocentrica. Questo già tutto meriterebbe un dibattito, però il contadino e la contadina zapatista lo fa nella pratica quotidiana perché è parte della sua cultura, e l'organizzazione, le ZLN, a differenza di altre guerriglie, non minimizza questa componente culturale, non dice che è una deriva folclorica, culturale dell'indigeno, che però in fondo è solo un contadino che ha bisogno di un pezzo di terra, no. Quindi questa è importante, la dimensione che ha detto il compagno, perché le ZLN non ti dice se è un contadino, siamo degli indigeni dove nella terra abbiamo seppellito i nostri antenati, dove la terra ci alimenta e alla terra torneremo, per cui siamo parte di questo. E fa di questo discorso però un discorso politico, per cui questa terra poi, come diceva il compagno, è stata recuperata, ed è stata recuperata con le armi, e sono 250.000 ettari di terra circa che i zapatisti hanno recuperato, zapatisti e le zapatiste hanno recuperato nel 1994 in poi, e su cui fondano economicamente e materialmente la propria alternativa. Per cui ecco qui l'elemento, cioè la combinazione di elementi culturali, teorici, culturali, filosofici, in qualche modo anche religiosi, come accennava chi ha chiamato, con l'elemento pratico della lotta di classe reale, cioè dei contadini senza terra si sono organizzati in una struttura politico-militare, hanno preso le armi, si sono presentati una mattina col passamontagna e hanno levato le terre ai ricchi, ai latifondisti, come si è sempre fatto, come è sempre stata la strategia, e su questo territorio, su questi 200.000 ettari, estraggono una ricchezza anche economica che permette loro di praticare l'autonomia. Però allo stesso tempo i zapatisti, mentre più di una volta hanno detto la terra, cioè noi possiamo fare questo perché abbiamo i mezzi di produzione e l'organizzazione per farlo, un territorio in cui stiamo, quindi l'autonomia è un territorio e dei mezzi di produzione. Però allo stesso tempo ti dicono che la terra appunto è anche territorio, cioè la terra non è solo un mezzo di produzione da cui estrarre un raccolto da vendere, è anche culla di civiltà, culla di ricordi, luogo dove abbiamo seppellito gli antenati, luogo dove prevediamo il futuro, dove daremo casa ai nostri figli. Quindi la complessità e la capacità di fare equilibrio fra un discorso culturale, religioso, spirituale e delle motivazioni molto semplici, quindi accessibili al contadino, alla contadina, all'indigeno, perché li sente propri, perché non esterni, perché non è la coscienza di classe che viene dalla città a spiegarti che il campesino si deve proletarizzare e quindi avere accesso alle sue ricchezze che sono lì fra le sue mani, no, è il discorso semplicemente là sta seppellito tuo nonno, tua nonna, e quindi là darai la terra a tuo figlio, da là prendi da mangiare e a quella terra tornerai, per cui prenditi cura di quella terra attraverso come un'organizzazione in grado anche di soddisfare materialmente i bisogni. Bene, e abbiamo un'altra telefonata, andiamo subito in diretta, ci senti? Abbiamo perso la linea, mandiamo un attimo un po' di musica e vediamo se il compagno riprova a chiamare. Allora, il compagno ha richiamato, vediamo se ci sente. Ci senti ora? Sì, più o meno vi sento. Vai, sei in diretta, Radio Onda Rossa. Allora, io principalmente volevo farvi una domanda. A me mi ha molto colpito il livello di separazione e interazione fra la parte, diciamo, civile e la parte militare. Soprattutto perché, da come la raccontavate, anche legata al forte rapporto con la comunità, con la terra, sembra spostare rispetto a quelli che possono essere i nostri canoni europei proprio il concetto di vittoria, il concetto di vincere politicamente una battaglia globale e complessa come quella. E la cosa mi colpisce ancora più perché comunque parliamo tanto di Chiapas, ma Chiapas rimane immerso in realtà di uno stato come quello del Messico, estremamente contraddittorio, particolare, duro sicuramente. E quindi poi quello che volevo chiedere è se, come vi sembra, cioè che prospettiva di vittoria si sta dando il movimento zapatista all'interno di uno stato come quello messicano, dove si muovono e succedono tante altre cose. Bene, vediamo chi vuole rispondere. Ti salutiamo, ok? Ok, grazie ciao. A tutti. Ciao. Ciao. Mi dispiace riprendere la parola, levare la parola di compagno, però magari dal Messico possiamo dire quello che percepiamo. Allora, innanzitutto è vero, la ridefinizione del concetto di militare cambia anche la definizione del concetto di vittoria. La teoria, potremmo ridurre al concetto di leninista, la teoria dei due passi, come la definiamo là, non so se qua si usa questo dibattito, cioè prima prendo il potere, poi cambio le cose, cioè, quindi la guerriglia serve perché così prendiamo il potere, e allo stesso modo le elezioni servono così prendiamo il potere e poi cambiamo le cose. E, ecco, la costruzione militare delle guerriglie puntava a questo, cioè noi dobbiamo creare le condizioni militari e le condizioni sociali che appoggino le condizioni militari per raggiungere il potere. E l'esperienza in realtà del Nicaragua, l'esperienza di Cuba, no? Per parlare di quelle, in qualche modo sono riuscite a distruggere la dittatura locale e a imporre in qualche modo nei fatti un cambiamento reale attraverso un governo socialista. Ora, al cambiare l'obiettivo cambia la strategia, quindi l'esercito zapatista, al non puntare alla presa del potere, dove si poteva definire perlomeno una tappa della vittoria è distruggere il regime e costruire un governo rivoluzionario, seconda tappa della vittoria attraverso il governo rivoluzionario costruire il comunismo e quindi distruggere la divisione di classi dentro la società, che è quello che forse è mancato nella storia, cioè è quello che ci fa analizzare questo, non dal punto di vista ideologico, il fallimento dei due passi. Poi io posso pure venire da un'esperienza libertaria e non condividere il percorso però sicuramente i zapatisti non vengono, la guerriglia zapatista non viene dal mio stesso percorso di squat e situazioni underground, però è evidente che hanno analizzato che nei fatti quella che chiamano teoria dei due passi non ha funzionato nel trasformare il Centro America e che quindi la trasformazione si doveva dare in atto. Trasformare in atto le cose implica un cambiamento del concetto di vittoria, perché dove si definisce la vittoria? Quindi oggi possiamo dire che i zapatisti rappresentano una vittoria contro la storia imposta dall'alto, perché per 20 anni hanno potuto auto-organizzare il proprio territorio e mantenerlo nonostante la guerra di bassa intensità, la guerra combinata di sfiancamento, cioè tutte quelle forme di attacco dello Stato contro loro, sia dalla guerra militare a quella sociale che c'è in atto oggi. Quindi il fatto che i zapatisti oggi esistano, che siano decine di migliaia di persone che a livello popolare si auto-organizzano, che abbiano ancora le armi per difendere i loro posti, che esistano e che diffondano la loro voce, è una vittoria in sé. Ed è una vittoria pure per i movimenti sociali in Messico, non voglio dire nel mondo, ma sicuramente per noi che stiamo in Messico, perché possiamo ispirarci e basarci su dei fatti. Per oggi noi stiamo qua a parlare, non è perché abbiamo letto dei libri, è perché molti di noi siamo andati in comunità, abbiamo visto questa cosa, ed è sorprendente immaginare che in una parte del mondo ci sia una società fatta da decine di migliaia di persone, quasi centinaia di migliaia di persone, che non usano il salario come mezzo di relazione fra di loro, non eleggono, non hanno partiti politici, si organizzano in assemblee, allo stesso tempo hanno armi, ma non fanno il feticcio delle armi, non credono nella lotta armata come unico strumento di liberazione e rappresentano un'alternativa di tipo culturale, politico, economico e ci permettono quindi di avere una serie di strumenti per pensare, vabbè, allora noi lo possiamo fare, se può fare, raga, è difficile, un altro è, però se può fare. Quindi questa è la vittoria, cioè mantenere la speranza, cioè la speranza, perché dopo la caduta del muro di Berlino, pure chi non ci ha mai creduto nel blocco socialista, si è trovato orfano di qualcosa. dobbiamo dire, dico, parlo in termini molto generali ovviamente, no? Però insomma pure chi veniva da esperienze libertarie a postare bastonare dopo il 36, dopo che, cioè c'è la necessità di vedere realizzata l'utopia, che quindi utopia non è perché esiste nella realtà, e questo è quello che rappresentano i zapatisti, e questa è una vittoria per me inestimabile, cioè incalcolabile. D'altro lato, le possibilità di vittoria, i zapatisti sono esercito zapatista di liberazione nazionale. Liberazione nazionale oggi gli sta pure stretto agli zapatisti, perché negli ultimi comunicati non parlano più solo di liberare Messico, ma parlano che la condizione della propria liberazione è necessariamente globale. Per questo ci invitano a tessere resistenze e fare le lotte noi nei nostri territori, non andare in Chiapas. Andarci in Chiapas una settimana, ma poi tornare e lottare nei posti. Ovviamente io poi c'è chi c'è rimasto là, però questo invito è importante, perché liberazione nazionale è se stesso una vittoria, è necessariamente proiettata verso la liberazione più ampia. Ora i zapatisti davvero potrebbero chiudersi nei loro territori, loro stanno nelle montagne in uno spicchio di Messico abbastanza ritirato, e se loro pensassero solo a se stessi come comunità autosufficienti, per me il governo glielo farebbe pure fare, perché in qualche modo se li leva di torno, anzi la strategia mediatica è proprio quella di isolarli, di non parlare più degli zapatisti, così non c'è più l'esempio e i zapatisti potrebbero vivere più o meno tranquillamente in quel pezzo di territorio. Poi i zapatisti rilanciano la sfida, fanno l'altra campagna, fanno la sesta dichiarazione, si rimettono in ballo, si fanno vedere, fanno le manifestazioni e dicono allo Stato: questo Stato sarà sovvertito, costruiremo un Messico dove non ci sarà bisogno di politici, dove non ci sarà bisogno, e via, e via, e via, e soprattutto libero dallo sfruttamento capitalista. Questa vittoria è un po' più lontana, però. Bene, quindi la questione è come fare come le ZLN. Mo, riprendendo però tutti i passaggi, perché io su una cosa secondo me ci abbiamo una lettura un po' differente, cioè tu dici non c'è la cosa dei due passi, quindi avviene tutto contemporaneamente, però il cambiamento, la costruzione della società diversa, quella più giusta che vogliamo, avviene comunque, che ha come presupposto il fatto che loro ce l'hanno questo territorio, quindi c'è questa presa del potere, diciamo, in realtà è avvenuta già. Poi no, su questo magari ne discutiamo. Poi andando a vedere sul fare come i zapatisti, quindi l'iniziativa politica di un piccolo gruppo aperto al dialogo, che cambia anche la propria strategia sulla base delle necessità effettive che incontra in un territorio, quindi era partita con l'idea di fare un fuoco chiarista, poi invece diventa esercito di autodifesa, eccetera. Attraverso questo processo, presa del potere su un territorio, costruzione dell'autogoverno popolare, che abbiamo visto che è un processo che non arriva dall'oggi al domani, ma viene fatto dando capacità, dando parola a queste agli abitanti del territorio. Quindi c'è comunque un forte contenuto e strategia politica in tutto questo, non è lasciato tutto al caso indefinito, diciamo vediamo come va, siamo aperti a tutto, c'è comunque una linea, c'è in tutto questo o no? Non lo so. Io vediamo. Volevo solo specificare che la teoria dei due passi è la presa del potere dello Stato e la trasformazione della società attraverso lo Stato, cioè, nel senso la dissoluzione delle classi attraverso la dittatura del proletariato, un governo socialista, cioè quello era cosa, no? O le elezioni, nel senso la messa in crisi è sul ruolo dello Stato, però non certamente non su quello dell'organizzazione. Però magari altri compagni vogliono dire. Sì, innanzitutto diciamo, se prima sono intervenuto sottolineando come forse il concetto di ascolto può essere una chiave di lettura per leggere, interpretare lo zapatismo da qua, da Roma, dall'Occidente, dall'Italia, penso che il concetto di differenza sia uno strumento fondamentale sia per leggere e quindi ascoltare, osservare l'esperienza zapatista, sia per capire come funziona al proprio interno l'esperienza zapatista. Il concetto di differenza qua per me, nei termini più radicali, deformazione di mia personale, è il pensiero femminista delle differenze, il pensiero femminista italiano che ha portato nella sua radicalità questo pensiero a poter pensare una relazione con un'alterità che è quella per esempio, con cui ci scontriamo e ci incontriamo quando proviamo a riflettere su un'esperienza di contadini del Chiapas, Messico, dell'inizio degli anni Ottanta, visti da qua, Italia, Roma 2014, forse il pensiero della differenza può permetterci di pensare questa alterità. Questa alterità, questa differenza che incarnano i zapatisti, perché se non cogliamo e se non partiamo, secondo me, da un dato di differenza radicale, rischiamo di cadere nel tranelli ideologici, così, di un pensiero poco critico, diciamo, poco consapevole, di cercare di fare facili identificazioni o generalizzazioni con quello che noi possiamo fare qua o con quello che è accaduto qua. Il pensiero della differenza ci insegna che su, anche in termini di storici, ogni confronto con un'altra cosmovisione, ogni confronto con un altro momento storico è un confronto che parte dal dato indiscutibile della differenza. Gli zapatisti incarnano anche questo principio nella loro pratica politica, perché fanno del concetto di differenza, della riappropriazione del materiale, dei propri corpi, della propria cultura, e parlano di, si rivendicano come esercito neo-zapatista, ma un esercito che affonda le proprie radici in 500 anni di storia. Fanno di questo concetto, il concetto di differenza, una pratica politica, perché riescono a stare in questo perfezionamento quotidiano, no? In questa messa in crisi quotidiana di sé, in questa messa in discussione. Gli zapatisti, il Chiapas, sono una zona rurale, uno dei paesi più poveri del mondo, una zona in cui lo Stato, così come noi lo immaginiamo, nasce in Europa a metà del 1600, lo Stato nazionale, lì arriva come strumento di colonizzazione, soprattutto strumento in mano alla Chiesa Cattolica Romana, che lì ha avuto delle responsabilità politiche enormi, una delle prime istituzioni ad aver inventato e praticato il genocidio anche in quelle zone. Quindi quello che fa EZLN, quello che fanno i compagni e le compagne zapatiste dall'inizio degli anni Ottanta, è creare delle forme di organizzazione sociale e politica dove lo Stato non c'è, dove non ci sono forme istituzionali, dove io ho visto, noi compagni abbiamo visto e abbiamo potuto fare esperienza concreta di essere all'interno di una comunità zapatista, entrare dentro delle case di salute, delle cliniche o delle strutture come delle scuole autonome. Non c'era lì la scuola prima, non è che tu c'hai la scuola del governo e poi c'hai la scuola autonoma, non c'era niente, c'è lo Stato, il capitale, che usa in questa fase, ma come ha sempre usato strumentalmente anche lo Stato, ce ne sarebbe da discutere qua, però diciamo che, per farla semplice nel ragionamento, lì non è presente. Quindi tu hai delle comunità che si auto-organizzano e si danno degli strumenti. Questo è un elemento, secondo me, fondamentale per capire di che cosa stiamo parlando, di quanto è differente quella realtà e da quello che noi stiamo facendo qua. Da noi lo Stato si identifica con il bene comune, noi individuiamo il pubblico a livello proprio di grammatica culturale in Italia, nei nostri dibattiti, proprio a livello di linguaggio, identifichiamo il pubblico con lo statale. Lì non è così, cioè il pubblico è la madre terra, il pubblico è qualcos'altro. Lo Stato viene visto, ma proprio nell'esperienza storica messicana, chiapaneca, forse si potrebbe dire anche latinoamericana, come qualcosa che arriva esternamente. Quindi su questo lo pongo come elemento di messa in questione più che di risposta, perché penso che ci sia da riflettere molto su questo. Bene, vai, prego. No, quello che volevo dire io è che, cioè, si sono delineati un po' quasi come in questa discussione due binari, no? Si era visto prima, hanno rinunciato alla teoria leninista dei due passi, no, però è innegabile il fatto che hanno preso il potere, quindi poi magari si ritrova sempre di fronte al solito quesito dell'uovo e la gallina, no? Questo, diciamo, viene pure perché gli zapatisti sono riusciti a coinvolgere così tanto, ad esercitare un fascino così estremo, che ognuno è portato a metterci dentro la propria lotta, la propria visione del mondo. Ognuno vede nello zapatismo la propria ideologia. È l'anarchico, è l'autonomo, è l'ML, probabilmente. E quindi, in un certo senso, alla fine invece, questo avviene proprio perché è successo il contrario, cioè la totale deideologizzazione. Lo zapatismo si adegua a seconda dei contesti che incontra nella propria lotta e riesce a cambiare di forma. E questa è una cosa strepitosa. Quindi prendere il potere è innegabile che un'organizzazione armata ha preso il controllo di un territorio. Si può definirlo potere secondo la classica concezione marxista-leninista? No, perché ovviamente lì l'autorità è semplicemente quella che esegue ciò che un fittissimo sistema di assemblee decide, cioè l'assemblea di zona, l'assemblea della comunità, l'assemblea municipale, l'assemblea di zona, in cui tutte le decisioni devono tornare all'assemblea della comunità per poi essere vagliate e tornare, e il responso poi va recapitato di nuovo all'assemblea, alla giunta del buon governo, e quindi ratificare poi quella precisa decisione. Quindi in un certo senso avviene il contrario, quindi sono entrambe le cose. Ovviamente la comandanza anche stimola. In questo caracol la giunta è formata da poche donne, c'è bisogno di più presenza femminile, quindi ovviamente la comunità si sente più invogliata a porre rimedio a questa cosa. Oppure c'era la situazione in cui in una comunità, questo si leggeva anche dai libri delle Squelita, a un certo punto hanno cominciato a dare dei soldi così a un'autorità, mentre nella società zapatista questa cosa non avviene. Sono presentati un mando civile e un mando militare, che ovviamente gli hanno detto che è stata fa, sta cosa non si può fa, e lì hanno posto rimedio. Quindi in un certo senso è un adeguarsi continuamente ai contesti, è una deideologizzazione totale. Non so se mi sono spiegato. Sì, sì, ma infatti io credo che la maggior parte delle incomprensioni o delle difficoltà di comunicazione derivano dal fatto che si sta parlando di una pratica, e la pratica spesso calza su, viene letta in maniera diversa a seconda dell'ideologia, chiamiamola così, in senso buono, non in senso negativo, di ognuno. Però poi nella pratica spesso infatti si trovano delle consonanze maggiori. Rispetto a questo tema io vorrei introdurre, visto che un po' l'ha accennato pure il compagno, il rapporto tra autorità, le chiama qui un compagno che ha partecipato alle Squelita, di cui voi avete tradotto un articolo che si chiama Bachet, e l'autogoverno popolare. Io leggo un pezzo che viene da questo articolo che avete tradotto. Dice: con ciò si riconosce una funzione molto importante alle autorità. Hanno un dovere, è la parola che appare nei quaderni di testo, di iniziativa e di spinta. A esse corrisponde assumere un ruolo speciale nel processo decisionale. Per questa ragione potrebbe risultare inadeguato intendere il comandare obbedendo in termini strettamente orizzontali, come se tutto fosse frutto delle iniziative e decisioni delle comunità, essendo il popolo in se stesso e senza nessuna mediazione l'unico e permanente posseditore della potenza di governarsi. Al contrario, le osservazioni delle maestre e dei maestri si allontanano da qualunque idealizzazione del popolo. A volte il popolo sta dormendo, a volte si sbaglia. Le spiegazioni del mio Votan, forse in parte dipendenti dalle formulazioni delle mie domande, sono esplicite. Non sempre tutto orizzontale, non tutto nasce dal popolo. C'è una parte verticale che viene dall'autorità, ma come rappresentante. Qualcuno deve prendere l'iniziativa, ma la decisione, sì, è del popolo. E per il maestro Giacobbo l'autorità va davanti, orienta, sprona, ma non decide né impone. Il popolo la conduce. Quindi si vede bene com'è il ruolo tra queste due entità, diciamo. C'è chi ha un ruolo di sprone, ma la decisione comunque, e qua sta la differenza tra un comando che impone, come diceva prima, e un comando che obbedisce, no? Poi su questo non lo so, vogliamo fare pure qualche esempio pratico? Prego. No, io era un commento rispetto, per tenere legato questo ragionamento con quello che ci diciamo ora sull'abbandono dell'idea della forma Stato, no? E quindi di un certo tipo di approccio. Anche qui quello che loro stanno sperimentando, se legato all'idea della presa del potere come idea della presa dello Stato, cioè la formazione dei partiti politici come forma di organizzazione politica sociale, qui l'abbandono di questa prospettiva, quella della presa dello Stato, è, diciamo che fa da contrappunto, va insieme all'abbandono della forma di organizzazione sociale che è il modello, espressa dal modello del partito. E quindi c'è nella Comune Zapatista, in questi 30 anni di esperienza zapatista, e dal 94 e dalla nascita degli Aguas Calientes prima e quindi dei Caracol, una sperimentazione concreta, reale, materiale e quotidiana di forme altre, alternative a quelle dell'organizzazione sociale che noi conosciamo nella forma del partito. In questa sperimentazione uno degli elementi fondamentali, secondo me, che va posto per comprendere appunto la radicale differenza di questa pratica politica, di questa costruzione di autonomia, è il concetto di deprofessionalizzazione della politica. Cioè non esiste l'idea di un politico o di una politica come professione. Questa questione è talmente radicale che fa eco, secondo me, nel pensiero italiano solo alla potenza del rifiuto del lavoro che è stata espressa dal pensiero operaista negli anni 60 e 70 in Italia. Cioè è qualcosa che, per comprendere la forza, veramente molto abbiamo da ruminare, sia dei testi sia soprattutto delle esperienze concrete dello zapatismo. Cioè salta un modello proprio di visione del mondo, di visione di quello che può essere chiamato il bene comune, il bene pubblico, la cosa pubblica, le relazioni umane. Cioè stiamo parlando proprio di un paradigma di comportamento e di organizzazione sociale che forse la differenza può essere, che ne so, tra i Sumeri e gli Egizi, no? Funzionano in maniera differente. Cioè questi ti stanno dicendo, noi funzioniamo in maniera differente. Cioè per noi separare il territorio da chi governa un territorio è qualcosa che non c'ha senso, non è logico. È come se tu andassi, che cavolo ne so, da uno che usa alcune forme come i Sumeri e gli porti i geroglifici egizi. Quello ti dice, per me non funziona così la scrittura. Va bene. Cioè sono due forme differenti di pratiche politiche. Il separare la politica dalla professione e quindi la pratica quotidiana iniziata negli Aguas Calientes e portata avanti nei Caracol, del non pagare, del non riconoscere un salario e quindi un professionismo a chi ha ruoli di governo, è un qualcosa che ci pone proprio in un altro piano della costruzione dell'autonomia politica e quindi dell'agire politico e quindi del rapporto, dei rapporti interni all'organizzazione. Per chiudere questa riflessione più generale e rispondere poi alla domanda, quello che è l'esperienza zapatista, in qualche modo, così parlando dopo l'esquilita anche in un seminario all'interno del Sidesi Unitierra di San Cristobal, proprio discutendo, commentando proprio questo testo che tu hai citato, il testo in generale, non solo questo passaggio qui di Jérôme Bachet, è stata una delle riflessioni, è stata andata proprio sul concetto d'avanguardia, no? E quindi si ragionava su questa. Così è uscito un compagno spagnolo, ha fatto questo intervento dicendo che in qualche modo si poteva parlare qui di un'avanguardia orientativa, che risuona proprio nel ragionamento di Bachet che tu leggevi, proprio perché in qualche modo non stiamo parlando, che poi è qualcosa che ritorna io prima pensavo ai volumi autonomi che sono stati pubblicati da Derive a Prodi e che sono parte della tradizione e della ricchezza di questa radio e dell'esperienza politica di noi compagni qua a Roma. Cioè là dentro è pieno di discorsi che parlano di questo, che è pieno di discorsi che parlano della necessità di separare, diciamo, quella che è l'idea che è incarnata da partiti, da ideologie politiche che sono state anche oggi il re Giorgio Napolitano, espressione di un pezzo del Partito Comunista Italiano che ci ha avuto idee del genere, insomma, idee per cui il partito deve essere uno strumento che viene utilizzato da una classe di professionisti che devono realizzare una certa idea di socialismo, di riforme sociali all'interno del paese. Quindi c'è qualcosa che appartiene anche a noi, invece, l'idea, nella nostra differenza culturale, di una pratica politica che non vede questi leader come qualcosa di separato dalla pratica quotidiana e quindi dall'organizzazione sociale. Questa indissolubilità, inscindibilità tra una decisionalità necessaria alla concretezza materiale delle cose. Cioè se decidiamo in assemblea che dobbiamo cambiare a porta al bar, quella cosa va fatta, e non è che l'assemblea dopo se potremo dire ah però non l'abbiamo fatta, e chi lo doveva fare perché non l'ha fatto. Cioè molto semplice la questione. La verticalità sta nel rendere efficaci le decisioni prese, l'orizzontalità sta nel fatto che noi siamo diversi da loro e noi ci organizziamo in cerchi assembleari antisessisti, antirazzisti, antifascisti, in cui ci si ascolta e si prendono le decisioni condivise. Quindi ci sono proprio modelli di organizzazione sociale che vengono praticati in maniera differente. Volevo aggiungere una cosa pure io, magari questa trasmissione volevamo anche un po' provare a mettere in relazione come questi esperimenti zapatistici hanno potuto ispirare a noi compagni nel nostro percorso politico, che quindi magari ci ha una ventina d'anni, una decina d'anni. Anche noi ci abbiamo come riferimento gli anni 70 e spesso quando parliamo di autonomia e contropotere, no, ci viene naturale di paragonarli anche a quell'esperienza lì. Però io penso che uno dei momenti storici del nostro percorso politico, un po' della nostra generazione, può essere, come può essere stato quello di Genova, delle grandi mobilitazioni, dei social forum. Secondo me molti di noi hanno recepito il discorso zapatista anche perché quello magari è stato uno dei tentativi nel recente passato di dare delle risposte alle stesse domande, e penso che ci debba fare riflettere il percorso che è stato fatto e che risposte sono state date a questa necessità, questo bisogno di orizzontalità e di distruzione di una verticalità della politica. Quindi tutto questo discorso del leaderismo, della presa decisioni politiche collettive e come poi nel discorso occidentale si sia perso, no? Cioè, nel senso che magari mi piacerebbe che qualcuno telefonasse se invece è un po' più ottimista di me e ha visto dei risultati diversi. Per quanto mi riguarda, ho attraversato il movimento occidentale e mi sono interessata e fatta ispirare dal percorso zapatista perché, nonostante le differenze culturali, politiche, sociali ed economiche, mi sembra che siano state date delle risposte sempre in cammino. Già il fatto che siano in cammino determina il fatto che siano le risposte efficaci, delle risposte che hanno sorpassato dei blocchi che poi di fatto sono rimasti qui nel nostro mondo occidentale. E penso a come questi discorsi che noi portavamo avanti già da prima, ma in particolare nel periodo dei grandi social forum, siano stati poi riacquisiti, rimasticati e risputati dal sistema capitalista. Penso a movimenti come quello 5 Stelle, che adesso si rivendica la rete dal basso a sinistra, ma anche a dei settori di movimento magari più vicini a noi, che comunque hanno poi tradotto questo discorso in una maniera che non ha raggiunto un risultato, ma nemmeno lontanamente, di presa di decisione orizzontale. Eh sì, mi sembra interessante legare questo discorso alla nostra esperienza. Insomma, sono tutti quanti anni che facciamo politica qua a Roma, quindi sappiamo bene qual è la realtà romana, e su questo invitiamo tutti a telefonare. Il numero è lo 06 49 17 50. Io appunto volevo rimarcare questa cosa qui, no? Perché appunto parliamo sia dell'importanza della presa di decisione collettiva, no? E noi sappiamo che spesso questa assume la forma dell'assemblea, quindi in assemblea decidiamo tutti insieme cosa fare, però sappiamo che magari assemblee in cui siamo nel nostro collettivo c'è anche una conoscenza maggiore, un'affinità maggiore, le decisioni magari hanno anche più possibilità di essere prese in maniera collettiva, mentre in altri casi l'assemblea è semplicemente un luogo, diciamo, di ratifica di decisioni già prese, oppure se queste decisioni non vengono ratificate, se non sono già state prese le decisioni, probabilmente non verranno prese in quell'assemblea, quindi c'è anche una difficoltà di questo. Mentre secondo me a volte questa condivisione, questa orizzontalità maggiore si ottiene proprio mettendo in pratica quello che dicevamo prima, cioè l'ascolto, il dialogo, la capacità anche di dare alle persone le competenze e le conoscenze per agire, perché spesso si agisce su un livello di non sincerità con l'altro, no? Si cerca di fargli appoggiare una proposta o meno sulla base non della conoscenza condivisa dei propri obiettivi e della realtà, ma sulla base di altre gli si fa balenare l'ipotesi che a lui quella cosa conviene per altre ragioni, non si svela direttamente i propri obiettivi. Quindi forse c'è un eccessivo formalismo, cioè c'è una specie di copiamento del formalismo dell'orizzontalità, ma non c'è una reale pratica dell'orizzontalità che invece là viene messa in campo attraverso questi modi. Non lo so se volete riprendere il discorso. Sì, ovviamente ci stiamo addentrando in un terreno spinoso, probabilmente le cose che stiamo dicendo feriscono a destra e a sinistra, nel senso però in realtà la proposta critica di questo dibattito dal vivo è proprio questo, perché noi stessi qua presenti del collettivo Nodo Solidale veniamo da esperienze politiche pure molto diverse. Beh, cioè, siamo tutti parte sicuramente del movimento antagonista, però ognuno con una sensibilità differente e con un cammino differente siamo giunti in Chiapas, e l'esperienza zapatista è quella che ci ha fatto riguardare, ci ha fatto riconoscere fra di noi, con ognuno senza perdere la propria sensibilità e riprendere il cammino, però con questa lezione di umiltà e dignità che ci hanno dato giù. E quindi è stato un processo, io personalmente quando sono andato in Chiapas non avevo assolutamente idea di quello che c'era lì, e non ero sicuramente, non sono andato affascinato da né dai passamontagna né dalla pipa né dall'immaginario pure più comune che c'era. Certo, questo immaginario ha inciso la mia allora gioventù, però non ero certo al corrente di quello che realmente rappresentava l'esperienza zapatista e la capacità di contropotere reale che stavano tirando sui compagni, le compagne. E io, la messa in pratica reale di tante cose che ci eravamo detti fra compagni e compagne è quello che mi ha fatto realmente diventare filo zapatista. Io sono atterrato in Chiapas con un mio bagaglio assolutamente forgiato tra le esperienze che venivano dell'autonomia e poi dei percorsi libertari e anarchici, e quindi mi sono ritrovato comunque in un territorio che c'aveva a che fare con un esercito, che c'aveva a che fare con una comandanza, che c'era una struttura se non verticale, noi la chiamiamo diagonale, però a quei tempi io la percepivo più come verticale che orizzontale. E però la ricaduta poi reale, la partecipazione alle assemblee nei villaggi, le trasformazioni che io stesso ho visto dal 2006 a oggi, negli 8 anni che sono stato in Chiapas, mi hanno totalmente convinto che c'è qualcosa non solo di positivo, ma addirittura di esemplare nella lotta, nelle pratiche dei zapatisti. I zapatisti dicono che loro è praxis, teoria, praxis. Cioè, nel senso, è pratica, teoria, pratica, perché ciò che definisce la teoria è la pratica. Per questo oggi ci ritroviamo qua a dire cose che sono scomode. Io mi rendo conto che questa diagonalità della struttura zapatista in realtà, almeno in quel territorio, funziona, e mi fa permettere di dire che andrebbe sperimentata anche in altri posti, dove rimane assoluto appunto il processo di presa di decisioni collettive su quello che si deve fare, e rimane però assoluta l'autorità di chi le deve portare a termine queste cose, che non può essere intralciata nel cammino se non quando questa autorità non porta a termine quanto definito dall'assemblea. Bene, abbiamo una corrispondenza, vediamo se il compagno ci sente. Ci senti? Sì, vai, sei in diretta, puoi dire. Pronto? Sì, sei in diretta, ci senti? Ecco, vi sento. Buongiorno a tutti i compagni, buon lavoro, buona continuazione. Io vengo da abbastanza lontano, non dico questo in tono paternalistico, lo dico così perché nonostante l'età e le difficoltà che si incontrano oggi, la lotta la continuo. E dove trovo di continuare la lotta? Non tanto nelle assemblee, nelle grandi riunioni o cose di questo genere. In qualunque posto ci siano persone, le persone hanno gli stessi nostri problemi, e allora bisogna saper cogliere questi problemi, parlare con loro, dialogare e cercare di trovare un minimo di spazio, quello spazio minimo essenziale per poterci organizzare, per poter lottare, per poter spingere alla lotta. Ecco, io volevo dire questo, che insomma, ovunque ci sono persone, abbiamo una possibilità di continuare il nostro lavoro. Tutto qui. Vi ringrazio. Grazie a te. E, ciao. E buona continuazione. Ciao. Ciao, ciao. Grazie al compagno che ci ha chiamato. Guarda, mi fa molto piacere il tuo intervento e proprio volevo lanciare questo commento così, perché proprio qua sotto al bar ci è capitato di parlarne, come il valore del rapporto interpersonale, no? Il valore del rapporto personale sia fondamentale. E qui aggiungo una cosa rispetto a quello che ci siamo detti ora sotto al bar, cioè lo aggiungo nel senso che proprio in questa rottura di paradigmi e quindi in questa uscita dal paradigma della presa del potere, dal paradigma dell'organizzazione partitica, c'è in qualche modo, uso una brutta parola, una riabilitazione, una, diciamo, una forse meglio una nuova centratura, una nuova che poi appunto ha radici antiche in tradizioni ed esperienze politiche come quelle provenienti dal pensiero libertario e femminista, dove le relazioni interpersonali sono il cemento, la base, le fondamenta dell'organizzazione politica e sociale. In qualche modo riprende questo tipo di esperienza da un punto di vista politico, l'esperienza zapatista, ma, e questo è quello che ci diciamo qua sotto al bar, una delle cose più interessanti secondo me, secondo quello che stava uscendo in questa accenno di chiacchierata prima, è proprio qualcosa che in questi ultimi che si trova dello zapatismo e attorno allo zapatismo, io direi forse proprio nella sesta dichiarazione, nel respiro ampio della sesta dichiarazione della Selva Lagandona, e si trova in quello che in questi ultimi mesi mi è capitato sia di partecipare a presentazioni sia di leggere testi come quelli di Sergio Bianchi, La gamba del felice, o di Francisco, compagno, che stanno presentando ora questo testo, Figli delle stelle, testi interessanti, testi che romanzi che riportano al pensiero di Nanni Balestrini, testi come Gli invisibili, come Vogliamo tutto, testi che raccontano attraverso la forma letteraria del romanzo quello che è la pratica quotidiana, diciamo, di quell'impolitico, di quella rivolta esistenziale, di quel sociale che in qualche modo si organizza, risponde alle proprie esigenze materiali, cerca di rispondere alle proprie esigenze materiali senza neanche e necessariamente quella lettura politica che diamo come militanti, come forme organizzate, così. E quindi quanto sia importante cogliere questa capacità della società di auto-organizzarsi, di dare delle risposte alle proprie esigenze materiali anche e forse a volte soprattutto al di là di quelle forme di organizzazione che anche come militanti ci diamo e che a volte invece in qualche modo rappresentano più un ostacolo a certe forme di autogestione che un'opportunità. Quindi grazie a compagno che ci ha telefonato. Ma aggiungo i ringraziamenti, però io sono d'accordissimo sul rapporto interpersonale basato sul dialogo, sulla sincerità, sull'umiltà, delle cose fondamentali che abbiamo già detto. Però secondo me questo non è in contrapposizione con l'organizzazione, cioè io penso che proprio quello che dicevamo prima, quando si decide tutti insieme di fare una cosa, e questo è l'importante, la decisione sia collettiva e condivisa, poi quella cosa va fatta e va fatta tramite un'organizzazione, insomma, no? Sappiamo che ogni cosa necessita ogni cosa complicata da fare, no? Mi sembra che proprio perché sono d'accordo con te, sono filo zapatista e penso che stiamo parlando di zapatismo. Dai, perfetto. No, secondo me è bene da io questa cosa la voglio specificare non rispetto a quello che si tema, perché spesso secondo me c'è un fraintendimento di questo. Le persone si accontentano, magari chi ci ascolta anche può trovare un alibi in questo, di stabilire relazioni interpersonali positive, lavora su quello, eccetera. Però poi i risultati dove stanno? Cioè, a me mi tocca lavorare 9 ore al giorno, probabilmente non ci avrò la pensione perché ho sempre lavorato in nero. Io le mie condizioni materiali le devo cambiare, non so, in qualche modo penso pure su questo che facciamo azione politica. Quindi è importante, secondo me, sottolinearlo. Poi andiamo avanti, chi vuole. No, io volevo solo visto che hai ritirato fuori l'argomento, prima ho detto, cioè, la cosa più importante è la presa di decisione collettiva e poi ne consegue però il rispetto. Ho detto l'autorità assoluta di chi porta a termine gli incarichi, in realtà non è l'autorità assoluta, è proprio un'autorità relativa, il rispetto è assoluto. Cioè il rispetto alla persona o alla compagna o al compagno che deve portare a termine il compito e la possibilità di farglielo portare a termine, perché spesso noi abbiamo la critica permanente alla delega, poi ci porta pure a non delegare più e quindi a non farlo. E invece là è la persona che viene delegata di un compito, che è quasi un'assegnazione di un compito in fondo, un compito deciso collettivamente, a questa persona si dà appunto tutta l'autorità necessaria per portarlo a termine. Quindi quello che voglio dire è un'autorità relativa, perché è sempre turnante, non remunerata e sempre revocabile qualora non porti a termine la missione. Però sì, rispetto, in quel senso rispetto assoluto, perché volevo un attimo precisare, perché ho detto autorità assoluta, poi dopo ci ha avuto un attimo tremata la mano pure a me, quindi però era questo che volevo dire. E rispetto a quello ritorniamo al punto d'equilibrio. Purtroppo non so se la storia, non so perché siamo abituati a una dicotomia per cui cioè da un lato c'è le relazioni personali, l'informalità, il gruppo d'affinità, come se questa fosse tutta una corrente di pensiero, e dall'altro lato c'è l'organizzazione che in qualche modo implica una sorta di burocratizzazione dei rapporti personali e la freddezza e quindi dell'agire politico propriamente detto. Quindi come se da una parte c'è il sociale informale che è la via orizzontale, dall'altra c'è la parte organizzativa burocratica che è la via verticale. In realtà i fatti, non l'ideologia zapatista, i libri di Marcos o di Moses, no, i fatti nella pratica nella realizzazione del contropotere, nella realizzazione di questa società liberata dallo Stato perlomeno e dal capitale, che non mi sembra poco, oggi 2014 c'è una parte del mondo che è liberata dallo Stato e dal capitale, fatta da contadini e contadine, non sono andati all'università, no? Cioè non è che sanno studiare i libri così, ma nella pratica fanno questa cosa, ci insegna che in realtà non può non esistere questa dicotomia, che a volte è una nostra proiezione, perché tante volte poi se ci pensiamo bene è superabile, è possibile creare un processo organizzativo chiaro, con delle regole, con delle strutture che poi scegliamo noi. I zapatisti hanno scelto quelle, noi probabilmente dobbiamo scegliere altre, anche perché il contesto è totalmente differente, che non prescinda ma faccia delle relazioni interpersonali positive, fluide e di mutuo appoggio e ascolto un'etica. Cioè, perché un dirigente che non ascolta la base non è un dirigente che se va per la sua, è un dirigente che sta attuando, praticando una politica senza etica, per cui nella società zapatista viene rimosso. E non è che non succede perché i zapatisti non so supereroi, no? Succede, è solo che hanno una capacità anche interna di punire a un certo punto chi non porta a termine le proprie missioni, chi abusa la propria autorità e via dicendo. E questo penso che è il punto che affronteremo ora. Io però voglio ricordare che il numero di telefono è lo 06 49 17 50, siamo aperti a tutti gli interventi. E questo mi sembra un tema interessante, l'avevamo già accennato all'inizio, quello della giustizia, in che modo viene gestita la giustizia nei territori zapatisti. Anche tu hai accennato al fatto del rispetto delle regole, abbiamo parlato della disciplina che c'è quando viene messo, quando viene decisa una cosa e viene messa a punto l'organizzazione per realizzarla. Abbiamo anche accennato a due regole che appunto poi prima facevamo dei riferimenti sui parallelismi tra il territorio zapatista e il nostro caso che conosciamo, che sono due regole vigenti nei territori zapatisti, che sono il divieto di consumare alcolici e di consumare stupefacenti, insomma, no? Questo non è che deriva da un'imposizione dall'alto, ma deriva da una valutazione delle conseguenze sociali che l'uso di queste sostanze fa sulla situazione zapatista, perché hanno esperienza appunto di come era prima che venivano vietate e si è decisa questa cosa. Quindi non è tanto l'assenza di regole, ma è la costruzione condivisa e collettiva delle regole. Non è uno Stato che impone le proprie regole in virtù dei propri interessi, ma è una definizione di regole collettive. Su questo come vogliamo pronunciarci? Sì, infatti penso che hai centrato anche molto bene la questione. Si tratta proprio della costruzione delle regole dal basso. Non c'è quindi qualcosa di impacchettato che arriva a sovradeterminare il consorzio sociale. Appunto, nelle comunità zapatiste è vietato l'alcol, come sono vietate qualsiasi tipo di droghe. Perché succede questo? Non è perché un giorno la comandanza si sveglia e a un certo punto vieta e dice basta, bisogna stare tutti vigili e quindi basta con l'alcol. No. Perché ovviamente bisogna conoscere quello che è il contesto indigeno, quello che è il contesto ciapaneco e capire quali sono le problematiche che l'alcol crea all'interno della società indigena. L'alcol così tanto come le droghe, e capire che le prime persone che alla fine subiscono tutta la portata negativa di questi fenomeni ovviamente sono le donne. E quindi è stata proprio una loro istanza quella di fare in modo che queste sostanze venissero totalmente abolite proprio per il loro beneficio. Quindi è proprio il contrario, non c'è quindi un'imposizione dall'alto, ah non mi fanno bere. No, questa è una regola che hanno deciso le compagne e in quanto tale va rispettata, e l'autorità è proprio qui il comandare ubbidendo a cui si faceva prima, e è l'autorità che comunque ha il compito di fare rispettare questa questa determinato tipo di regola, e quindi è proprio la giustizia. Si può parlare di, appunto, di un'altra giustizia, quella che le ZLN porta avanti in Chiapas, perché, appunto, lo dicevo nel mio intervento precedente, spesso noi compagni ci riempiamo la bocca di slogan: odio il carcere, bruciamo le galere. E siamo tutti d'accordo, ovviamente, ci mancherebbe pure. Però sorgono poi delle domande. Certo, il carcere è una struttura premoderna, un'istituzione obsoleta che ha l'obiettivo, in teoria, poi di reinserire, cosa che ovviamente non succede, anzi, giustamente la persona poi reitera quando esce, mi pare pure giusto. Però ovviamente poi ti poni di fronte a determinati problemi. Il fascista? E quello che quel giorno ha stuprato? Cioè, alla fine lo zapatismo riesce a darti degli stimoli, non perché, come diceva il compagno prima, bisogna fa così, però loro dicono: noi facciamo così, si può trovare una soluzione a questo problema, si può trovare senza l'uso di leggi. Lì comunque ci sono delle assemblee, ogni caso viene comunque contestualizzato, chi ha commesso quella cosa e perché, e quindi a seconda di ciò poi si cerca di elaborare dei metodi di sanzione, che però non sono già impacchettati o a te spetterà questo, comunque vengono discussi, si cerca di capire quanto quella pena può bastare per quella persona che ha commesso quel tipo di reato, che può andare quindi da la reclusione in una stanza, potrebbe sembrare una cella, appunto, per qualche mese, oppure andare in qualche modo a risarcire la famiglia o la persona che ha subito il danno, proprio dalla persona che lo ha commesso, lavorando per questa famiglia o per questa persona per un tempo determinato. La persona poi che viene chiusa dentro la cella in un certo senso poi esce e va a lavorare, a lavorare negli altri, a lavorare alla terra collettiva, a fare determinati tipi di lavoro, e mangia con gli altri. Comunque spesso magari possono andarlo a trovare i parenti quando vogliono, e comunque non perde la situazione collettiva. Io per esempio mi ricordo una volta che magari mi è capitato, tutte le volte che sono stato in comunità, una volta che c'era una persona dentro una cella, stava dentro con la cella aperta e parlava col vigilante, si è capito, la persona ha detto, insomma, a seguirlo. Quindi è affascinante comunque. Si può trovare un sistema di giustizia alternativo dove non esista l'istituzione carceraria, dove non esistano i tribunali, certo, bensì c'è l'autorità popolare, collettiva e assembleare. Infatti spesso sembra che l'alternativa al carcere, paradossalmente, che proponiamo è la pena di morte nei casi in cui ci sono delle cose tipo stupri o episodi di grandi criminali fascisti o cose del genere. Invece anche su questo ci stanno dei casi concreti in Chiapas, no? Quando sono stati presi degli ufficiali dell'esercito che si erano macchiati di gravi crimini contro le comunità zapatiste, no? Certo, allora, questo è altro tema difficile, però è veramente noi quando abbiamo la possibilità di stare in comunità zapatista ai poveri compagni li tartassiamo su questo tema della giustizia, perché, bueno, come qua in Italia, a Roma, anche noi che viviamo in città, in Messico, nel mio caso vivo a San Cristóbal de las Casas, non vivo in una comunità nella selva, in una zona libera da zapatista, per cui come movimento sociale abbiamo delle rigature. Fra l'altro siamo parte di un collettivo anche che lavora per la liberazione dei prigionieri politici, quindi il tema della giustizia, il tema del carcere. Allora io volevo sottolineare una cosa: innanzitutto i zapatisti non rinunciano loro al castigo, anche se non è castigo, cioè la giustizia è una giustizia riparativa, una giustizia che cerca la recuperazione del danno, no? E cioè in qualche modo è appunto una giustizia che cerca in qualche modo di riconciliare e riparare, cioè di rimantenere l'obiettivo dell'azione giudiziaria, che non mi piace per niente il termine, che neanche usano loro così, però è quello di mantenere l'equilibrio comunitario. cioè il fine ultimo non è l'eliminazione del colpevole o è mantenere l'equilibrio comunitario. Tale equilibrio di solito si recupera compensando la vittima anche moralmente, psicologicamente, perché non è consentita, fra l'altro, nella giustizia, nelle forme di giustizia zapatista, la compensazione economica, perché questo creerebbe una disparità fra chi ha la possibilità di riparare il danno economicamente e chi no. Quindi la riparazione è sempre attraverso il lavoro comunitario, che coinvolge in parte la famiglia o il territorio o i beni della vittima o no, o se no di tutta la comunità. E quindi il processo di rieducazione di un colpevole, che si conosce tale perché per ricevere una pena zapatista il colpevole, che non è sorvegliato militarmente, che dorme in una celletta, che ha la porta aperta, che comunque lavora fuori all'aperto, cioè una persona che potrebbe scappare in qualsiasi momento, non può portare a termine, diciamo, la sua riparazione del danno, quella che sarebbe in qualche modo la sua pena, se non è consenziente. E questo è straordinario, cioè che tu fai nei territori zapatisti e ci sono delle persone che pagano verso la collettività il proprio danno e che accettano la pena, e spesso lo accettano anche se continuano a dire no, però io non l'ho fatta quella cosa, però che devi fare, cioè lo devo fare, perché, e spesso perché a volte l'alternativa è o la vendetta privata della vittima, che sarebbe ben più crudele della sanzione comunitaria, o la pena o la denuncia penale presso l'istituzione federale, verso lo Stato, dove un indigeno che a volte manco parla spagnolo, che non ha nessuna amicizia, perché funziona così la giustizia messicana, finisce in carcere per un furto di una vacca, si può fare 9 anni in carcere rovinato, con la famiglia che non lo può andare a visitare, con tutti i problemi che sappiamo il carcere comporta, e che non ha magari in 6 mesi di lavori comunitari in un caracol. Quindi è questo interessante, pure cioè il libero consentimento del colpevole in riconoscere la propria colpa e quindi partecipare in qualche modo, e che pure il termine espiazione, cioè è proprio tutta un'altra grammatica attorno alla giustizia, che c'è così. E ovviamente non c'è da fare il mito, ci sono l'applicazione della giustizia, la ricerca e l'applicazione della giustizia è un tema spinoso, non esiste la giustizia assoluta. Ogni caso è un caso, i zapatisti, sapendo che ogni caso è un caso, non hanno un codice penale, cioè non hanno un per ogni tipo di reato corrisponde un tot di pena o un certo tipo di castigo. Non esiste questa formula propria dell'illuminismo, esiste l'analisi di caso per caso, e per caso un certo tipo di riparazione del danno, perché ogni vittima è differente, ogni colpevole è differente, il contesto è differente. Però anche là, però poi dopo si sono portati a termine. Non è che, ah vabbè, l'hai fatto, vabbè, dai, non lo rifarà più, bella una vacca sulle spalle, e perché siamo una società liberata. No, perché sennò la gente non ti dà più retta. E altro esempio è che i non zapatisti, spesso, quando hanno problemi, vanno a culo alla giunta di buon governo per risolvere i propri casi di giustizia, o i propri malintesi, le proprie questioni, le proprie vicende, incomprensioni. Cioè, quando più di una volta i compagni hanno fatto le domande, noi abbiamo fatto le domande alle compagne e ai compagni della giunta, ma in caso di stupro di un zapatista o una zapatista che succede? E i compagni fanno, se stupra non è zapatista, cioè comunque c'è pure un'etica, tu non puoi essere delle ZLN, trasforma il mondo e violenti una donna, un uomo. Se lo fai, cosa che è successo? Innanzitutto non sei zapatista, quindi la cosa più grave è che sei cacciato dall'organizzazione. Questo. Due, questi casi quando ce l'hanno di gente non zapatista, che però non vogliono, non accudono al tribunale perché sanno che la vittima non verrà mai ricompensata. Non si dice accudono, vero? Mi stanno dicendo, vedo tutti che ridono qua, scusate, accudir dallo spagnolo, no? Non vanno al tribunale. Non vanno al tribunale perché sanno che la vittima non riceve giustizia, e il colpevole, se finisce in galera, a tempo di e non si riconoscono in quella formula del castigo, della pena, come vista qua. Quindi diciamo esiste una forma di detenzione, ma questa detenzione in sé non è mai il castigo, cioè uno paga i propri errori attraverso altre forme e non attraverso l'eliminazione fisica dalla vista altrui, cioè che è quello che è il carcere. Eh sì, quindi anche la giustizia mi sembra improntata su un modello del dialogo, del capire il contesto per contesto, il caso specifico, quindi non l'imposizione di un modello prestabilito e nemmeno una sorta di io comando, tu hai fatto una cazzata, ti devo sanzionare, ti punisco, non me frega niente i risultati, come quasi per una minaccia per chi deve aver paura di compiere quel reato. Quindi mi sembra anche interessante rispetto poi quali i nostri casi, insomma, anche noi ci troviamo nel nostro piccolissimo rispetto a loro, avere a che fare con comportamenti nei nostri luoghi o anche all'interno dei nostri collettivi. Quando uno per esempio non fa qualcosa che ha detto che doveva fare, o si lascia correre, oppure l'atteggiamento è poco costruttivo, diciamo, non mira a risolvere il problema ma quasi a punire quel compagno. Quindi forse può essere interessante anche su questo. Volevo dire proprio questo. Perché è interessante questo discorso per noi? Perché ci ispira? Certo, è ovvio che non possiamo riprodurre il sistema di giustizia zapatista né nello Stato italiano né nelle nostre comunità. Però perché è interessante? Il discorso di giustizia in sé, cos'è la giustizia? Nemmeno gli zapatisti hanno una risposta a questo. Per noi che non siamo religiosi, che non abbiamo questo concetto di perdono, la giustizia è proprio un concetto che va rivisto e astratto, se vogliamo. E per non parlare appunto del sistema della giustizia italiana, ma negli stessi nostri spazi, no? Nel meccanismo di prese di decisione, soprattutto quando ci sono delle problematiche, per forza è interessante questo approccio, perché questo approccio, con tutti i suoi limiti, almeno si indirizza come obiettivo nella ricerca di un equilibrio e di una compensazione e di un passo in avanti rispetto a una problematica che si è creata in una comunità, senza avere la prospettiva di trovare una soluzione perfetta per tutti. Ma questo avviene nelle nostre comunità? Non ne sono sicura. Penso a tante questioni che sono avvenute negli anni, che sono stati dei punti di spaccatura, non perché non si è trovata una soluzione, ma perché il modo in cui sono state affrontate non ha soddisfatto le parti in causa, perché se vogliamo in molte occasioni, no, il modo anche in cui vengono trattate delle problematiche è sempre un modo poi che riflette delle dinamiche di potere non risolte. Prima parlavamo delle relazioni interpersonali, no? Come fondamento della costruzione di un sistema altro di governo, ma le relazioni interpersonali, se non diventano politiche, se non hanno un peso politico nella risoluzione di problematiche, rimangono comunque al di fuori. E penso che il sistema di giustizia zapatista rifletta proprio questo: l'individuo, la persona, la famiglia e il nucleo di una comunità. Ha un ruolo importante, nello stesso tempo una responsabilità importante, perché c'è sempre questa doppia faccia della medaglia nel sistema zapatista: hai un diritto e una responsabilità nello stesso tempo. E io immagino che su molte questioni che conosco, non so, butto la bomba là sulla questione che parlavamo prima delle droghe, delle sostanze stupefacenti, no? Il nostro movimento, un po' in tutte le sue accezioni, è un movimento antiproibizionista. Tutti noi siamo antiproibizionisti in maniera teorica, ma poi, no? E molti magari di noi considerano bigotta una scelta come quella delle comunità zapatiste, o non la capiscono, e con la loro visione occidentale, quando poi si ritrovano in dei territori che hanno preso delle decisioni di questo tipo, non comprendono la portata, perché appunto magari non conoscendo, non facendo proprio quel percorso orizzontale veramente di presa di decisione, può sembrare una decisione proibizionista di limitazione delle libertà individuali. Ma quanti problemi abbiamo avuto noi nel nostro percorso con la diffusione delle droghe nei nostri stessi spazi? Sinceramente, come è stato affrontato questo problema? Ho lanciato, basta. Sì, io vorrei aggiungere, prendendo proprio sullo stesso esempio, perché una delle domande che più spesso mi capita nei discorsi informali, è la prima volta che ne parlo in radio, è proprio: oh, però non è, cioè non sta limitando la mia libertà, cioè no, fa una cannetta, faccio la cannetta, cioè, oppure vabbè, ma io a bottarella ogni tanto, amore, deve essere proibito, nel senso, oppure cioè, non si può bere la birra, il vino, ma allora, innanzitutto il contesto culturale, ovviamente. L'alcol è stato utilizzato contro le comunità indigene per sterminarle, per andare diciamo, per cercare di far comprendere la situazione, forse forzando un po'. Il peso dell'alcol nelle comunità indigene è equivalente a quello dell'eroina nella nostra società e nel movimento. Cioè, uno strumento che è stato immesso, utilizzato, non sappiamo bene come, quando e perché, però sappiamo che i risultati sono stati nefasti e hanno in qualche modo allontanato pezzi di generazioni dalle lotte. Una funzione che oggi forse ricopre anche le droghe sintetiche, il crack, la cocaina, e cioè, nel senso, sarebbe un discorso molto interessante che non possiamo affrontare qua e che sicuramente anche da antiproibizionisti dobbiamo avere però il coraggio di prendere in mano. Al di là di quello, noi siamo tutti antiproibizionisti, l'ha appena detto antiproibizionista e la compagna, eppure più di una volta ci siamo detti nei nostri posti no eroina e non si spaccia. È una contraddizione? Nel senso, anche no. Cioè, io non lo so, poi ognuno faccia i propri conti. Nel senso, si può essere antiproibizionisti, però dettare le regole, perché ci rendiamo conto che l'eroina e lo spaccio portano solo problemi nei nostri posti. E quindi, e questa è la stessa visione dei zapatisti. I zapatisti non negano la libertà individuale, questo, però per la condizione sociale e culturale che loro vivono si rendono conto, e appunto sotto l'impulso delle donne che hanno detto cioè, la liberazione nostra non può avvenire se i nostri mariti tornano tutte le sere ubriachi e spendono tutto quello che hanno in alcol, e quindi è stato proibito questo, nel senso, in maniera collettiva. Noi a volte collettivamente nei nostri posti decidiamo che queste droghe non entrano e questa forma di commercio delle sostanze non si fa. Però là torno alla giustizia, allora. Però quante volte poi invece nei nostri posti, cioè, noi siamo antiproibizionisti, però spesso decidiamo che nei nostri posti, in quasi tutti i posti che io sappia, no eroina, no spaccio. Però poi quante volte addirittura nelle dinamiche interne siamo coinvolti le compagne e compagni in forma di spaccio, in forma di abuso di sostanze, e siamo in grado noi di, scusate il termine, però disciplinare questi comportamenti che noi stessi abbiamo detto arrecano danni alla nostra comunità, alla nostra collettività? Allora, il coraggio dei zapatisti sta là, non solo nel definire le regole collettivamente, ma anche nel farle rispettare collettivamente. E queste sono cose che in realtà hanno un interesse e una ricaduta al dibattito reale anche nei nostri posti. Cioè, questo è per me anche parlare del zapatismo, o che ispirazione ci può dare, no? E loro lo fanno ovviamente su una scala di massa, cioè lo fanno su problemi che coinvolgono decine di migliaia di persone e no collettivi di 30, 20, 10 o 50 persone. Allora, abbiamo una telefonata in attesa. Un secondo solo, mi metto un po' di musica, vediamo se parte. Cosa che fa bene al cuore, compra elisir d'amore, compra elisir d'amore, è qualcosa che fa bene al cuore. Piccola pantera dalla pelle nera, regina del mambo, classica ragazza che ti guarda e passa. Bene, abbiamo una telefonata, vediamo se ci senti. Sì, io mi sento. Dai, ti mando in diretta. Ok, radio. Pronto? Vai, sei in diretta. Ecco. Niente, è molto molto interessante il confronto che state facendo, e credo che proprio su questo dato del controllo così dal basso del quelle che sono le dinamiche comunitarie del territorio, che poi si ha la volontà e la determinazione di governare, di autogovernare, e credo che questa cosa, insomma, del consumo di sostanze, che vuoi l'alcol o vuoi appunto stupefacenti di varia natura, naturale o chimica che sia, credo che debba per forza di cose interessarci se vogliamo cogliere, insomma, l'importanza dell'esperienza zapatista, che conosco poco, e insomma questo incontro, radiofonico la sta un po' facendo emergere fuori dai miti, fuori da, insomma, dai luoghi comuni o dalle suggestioni, insomma, che poi hanno cavalcato gli anni 90, no? In maniera molto superficiale o prendendo soltanto la parte così comunicativa. Invece questa è vita reale e sostanza, sono contraddizioni e la capacità di mettere mano a delle dinamiche umane, di conflitti individuali o meno, e anche di scelte personali, come quello di avere la libertà di consumare qualsiasi tipo di sostanza, che però immessa dentro una dinamica collettiva crea per forza delle contraddizioni. E come si diceva chiaramente, cioè nella realtà indigena c'è un tipo di risultante, e la motivazione che è stata presa nel divieto consenziente è importante per quel tipo di comunità, che anche in altre esperienze rivoluzionarie, guerrigliere e via dicendo, come anche in Colombia la stessa cosa è stata presa, insomma, come scelta così delle comunità, insomma, in resistenza. Ora, quello che voglio dire è che questo dibattito lo dobbiamo per forza di cose fare nostro, insomma, per forza di cose, e forse è necessario nei nostri luoghi, quelli che sono così, che noi andiamo ad indicare come luoghi liberati, e anche rispetto ai territori che viviamo proprio in questi mesi, insomma, ci sono sulle cronache continuamente riferimenti alle dinamiche che il consumo di sostanze, appunto l'alcol e le sostanze, chiamiamole così, stupefacenti, creano su quelli che sono quei territori messi a profitto poi dal narcotraffico, e come il Pigneto, San Lorenzo e quant'altro. E io credo che su questo ci dobbiamo per forza confrontare, insomma, entrando nel vivo. Cioè una nostra cultura è quella dell'antiproibizionismo, ma a volte non riesce a fare i conti con quelle che poi sono delle risultanti insomma, sulle dinamiche quotidiane, sia nei nostri spazi appunto tra le vie dei nostri quartieri. E quindi credo che forse, insomma, un appuntamento di riflessione o continuarlo ad approfondire questo aspetto, aprendo un dibattito proprio su come dall'altra parte del mondo una comunità che vuole liberarsi dal capitalismo, dal controllo statale, dalle leggi imposte e quindi dalla galera intesa come appunto reclusione fisica e mentale di chi non è in linea, non è, insomma, all'interno del sistema costituito, e è riuscita a darsi, insomma, un funzionamento che sicuramente incapperà ogni volta in situazioni critiche, in errori, ma comunque ha fatto una scelta e la porta avanti, mentre noi un po' questo non lo stiamo facendo. E insomma, non è soltanto no all'eroina, secondo me, insomma, dobbiamo spostare un po' più avanti il nostro, insomma, punto di vista e la nostra capacità di intervenire su queste dinamiche che sono distruttive, dei rapporti sociali, sono distruttive per quello che si può costruire su un territorio a livello di organizzazione e contropotere, e sono distruttive perché comunque per quanto riguarda l'Italia, visto che insomma non siamo né in una così un sistema di liberalizzazione controllato dallo Stato, e né tantomeno in una capacità, insomma, di autoproduzione diffusa e autodeterminazione sul consumo critico, e quindi è critica dal punto di vista dell'alimentazione di un'economia che poi è un'economia legata al narcotraffico, ma al commercio umano sulla prostituzione, così come commercio d'armi, nonché l'aggressione sui territori a livello edilizio, da grande distribuzione, e quindi la catena, insomma, di sfruttamento che viene alimentata e quant'altro. Il vendere attraverso, insomma, una richiesta forte nelle metropoli di sostanze è il modo per far soldi per poi reinvestirli su altri tipi di settori economici, e questo ce lo dobbiamo ben porre, insomma. Quindi ecco, ben venga un dibattito del genere, affrontarlo nei particolari, portarlo dentro i nostri luoghi, perché secondo, a mio avviso, perché vivo in un luogo che è stato aggredito da questo punto di vista e ha fatto delle scelte forti sullo spaccio, sull'uso delle sostanze e via dicendo, e su un territorio che è comunque quello del Pigneto, che insomma a oggi c'è un'esasperazione grossa sulle dinamiche che poi si ripercuotono sulle strade, sull'uso e la vendita insomma di sostanze. Quindi ecco, questo era il mio contributo su questo aspetto molto importante e su quello che stavate riportando. Bene, grazie mille, non posso che condividere quello che hai detto e rilanciare la proposta di aprire un dibattito su queste cose. Cioè, a presto. A presto, ciao. Ciao, ciao. Bene, io non so se voi volete aggiungere qualcosa su questo tema, se no possiamo affrontare un altro tema che mi sembra interessante, è uscito più volte anche durante questa trasmissione, qualche parallelismo con la situazione che noi conosciamo come militanti, quella dei centri sociali romani, è un po' il luogo dove facciamo politica tutti, non solo quello per fortuna, insomma partecipiamo di tante lotte differenti, mi sembrava. E perché parlo di questa cosa? Perché anche quando siamo venuti qua in radio a proporre questa trasmissione dicendo che cosa noi possiamo imparare dall'esperienza zapatista, è uscito un po' fuori un parallelismo tra quello che avviene lì e quello che magari non avviene ma potrebbe avvenire qui. Qualcuno ha detto perché là comunque l'autonomia economica qui si potrebbe raggiungere, perché ci sono spazi liberati, ci sono esperienze di autoproduzione dal basso, eccetera eccetera, e questo potrebbe consentirci di raggiungere un'autonomia economica. Io sono abbastanza critico rispetto a questa visione, perché secondo me si perde di vista il fatto che là l'autonomia politica significa un territorio dove la legge dello Stato non viene fatta valere, mentre qui noi, anche se stiamo parlando di spazi occupati, liberati, sappiamo che fuori da quella porta c'è il potere statale, e quando vuole il potere statale entra facilmente anche nei nostri spazi, sia perché l'autonomia economica di cui si parla in quel caso è una autosufficienza economica basata sul controllo della terra, che è la fonte primaria di produzione in un'economia prevalentemente agricola. Certo, alcune cose vengono comprate da fuori, ma sono una piccola parte rispetto alle necessità economiche di quel territorio, mentre nel nostro caso, il caso insomma dei centri sociali, l'economia che esiste lì è praticamente un'economia della vendita di alcuni prodotti, di alcolici, di avvenimenti ricreativi, cose del genere, e tra l'altro un'economia che è fortemente relazionata all'economia di mercato del nostro sistema. Infatti noi prima diciamo, immaginiamo se ci fosse una crisi economica in Messico, i territori zapatisti non avrebbero quasi nessun contraccolpo, mentre una crisi economica forte in Italia, come anche quella che sta avvenendo, avrebbe sì un forte contraccolpo sui centri sociali. Quindi spesso si perde un po' di vista, anche proprio sulla base magari anche di una cattiva conoscenza di quella che poi è la struttura economica in cui ci troviamo. Io non lo so se su questo vogliamo dire qualcosa, perché a me mi sembra che spesso appunto parliamo di tutte le cose che possiamo imparare dall'esperienza zapatista, ma ci scordiamo che appunto là c'è un'autonomia politica, anche questa possibilità di autogoverno, proprio perché c'è stata una riappropriazione dei mezzi di produzione, insomma quello che poi abbiamo detto anche in trasmissione. Io, vabbè, sempre partendo dalla prospettiva che stiamo facendo dei ragionamenti sperimentali, nessuno qui nella migliore tradizione zapatista ha la verità in tasca, nessuna soluzione tantomeno, penso che questo discorso sia legato alla questione del riformismo. Tanti discorsi che sono stati fatti, ritorno sempre alla nostra nascita politica, se vogliamo, dal 2000 in poi, no? Tutta una serie di discorsi, mi vengono in mente anche forme studiate all'università come la decrescita, gli ecovillaggi, tutta una serie di prospettive anche allontanandoci un pochino dal solo discorso dei nostri centri sociali, ma una serie di realtà che sono nate anche da prima, le comuni agricole e le cooperative, no? Tanti esperimenti diversi creare un proprio sistema economico. E mo taglio con l'accetta tutto quanto, però avendo anche studiato, avendo fatto degli esperimenti di questo tipo, sono discorsi monchi se non si affiancano dei sistemi creati ad hoc dal singolo, dagli esperimenti sociali di autogoverno, di autonomia, e appunto quello di cui abbiamo parlato fino ad adesso. Lo vediamo in maniera abbastanza eclatante nei centri sociali, perché sono quasi tutti in dei territori urbani, quindi già calati in una serie di contraddizioni, per cui sarebbe abbastanza difficile rendersi autosufficienti economicamente, energeticamente, proprio perché già sei in un territorio molto caratterizzato. Ma anche appunto questi sono discorsi che facciamo tanto con i compagni, sempre di più negli ultimi anni, perché appunto si cerca una prospettiva, ci si prova perlomeno, no? Allora che bisogna fare? Bisogna andare in campagna, o comunque bisogna riappropriarsi di un territorio, di mezzi di produzione, però per me rimangono discorsi parziali finché non vengono affiancati da una costruzione di un altro tipo di organizzazione, perché altrimenti è riformismo, perché altrimenti dopo un anno, dopo 30, come è successo ai esperimenti degli anni 70, si rientra per forza nel sistema capitalista, perché il sistema economico ora è capitalista. Infatti è interessante, io qualche giorno fa sono stato a trovare un mio amico che vive appunto in una comune in Toscana, e là coltivano la terra, però la maggior parte delle cose che comprano le comprano attraverso dei forni che fanno nelle feste estive, in cui vendono la pizza, insomma. Poi i soldi per comprare il grano, la farina, per comprare tutti gli attrezzi di cui hanno bisogno, li prendono all'interno dell'economia capitalista. Quindi cioè, la questione è: ma è possibile uscire dall'economia capitalista quasi creandosi la propria oasi da parte, che poi vediamo che non è totalmente oasi, oppure seguendo pure quello che mi sembra l'esperienza zapatista, il fatto è, la questione è proprio prendersi tutto ciò che ci permette di produrre le cose di cui abbiamo bisogno, perché appunto là in quel caso è un'economia agricola, quindi c'è sicuramente la maggior parte dei mezzi di produzione sono quelli legati alla terra, però appunto noi pure le strumentazioni che utilizziamo oggi qui, le fonti di energia, tutte le cose che utilizziamo, insomma, ci hanno bisogno pure di un'industria, insomma, modi per produrre energia, non è scontato. Pure, cioè, io penso, a volte mi si dice pure montiamo dei pannelli fotovoltaici e ci rendiamo autonomi energeticamente, no? Tra l'altro è un campo che conosco abbastanza bene, ma i pannelli fotovoltaici sono prodotti da un sistema industriale che estrae il silicio, estrae l'alluminio, estrae tutti i componenti, produce la gomma, quindi poi vengono assemblati, poi vengono insomma, c'è tutta una cosa molto complessa dietro. Noi in questa autonomia, insomma, come la possiamo costruire se non ci prendiamo tutto questo complesso? Beh, io non ce la passo, è il problema vostro. No, nel senso, ci tengo a dire, a specificare che comunque anche gli zapatisti e le zapatiste non considerano la propria autonomia come un processo puro, cioè come un processo non contaminato dalla presenza dello Stato e del capitale. Certo, agli occhi nostri, che nella metropoli ci sembra praticamente appena appena interferito appunto dal mercato e dalle istituzioni statali, però in realtà no. Ricordiamo che non tutte le comunità zapatiste sono villaggi totalmente zapatisti, tante famiglie zapatiste vivono fianco a fianco con famiglie che appoggiano altri partiti politici, o addirittura comunità composte metà da paramilitari e metà da zapatisti, quindi vivendo pure in uno stato di scontro continuo con il nemico. Quindi questa contaminazione, cioè questa copresenza di compagni e compagne, e dall'altro lato di persone, famiglie e gruppi che non rientrano nel tipo di vita, nell'attività economica, produttiva e sociale del governo autonomo, e implica le necessarie contraddizioni. E ora, quello che fa sì che i zapatisti necessitino meno materiali, prodotti provenienti dal mercato, è pure la frugalità dello stile di vita. Oltre a poter contare su 250 decine di migliaia di ettari di terra messi a produzione collettivamente e che quindi a loro volta alimentano le cliniche, le scuole, rendono possibile tutto questo processo senza salari, ma sì con una retribuzione in termini di vita, fagioli, trasporto per tutti, perché comunque la gente si deve muovere, deve mangiare per portare avanti anche il proprio incarico, sia che maestro, sia promotore di salute, sia promotore di educazione, sia governo autonomo, qualsiasi tipo di incarico, è la comunità che si fa carico delle spese, quindi in realtà è anche un certo tipo di stile di vita, cioè scegliere di non avere tutta una serie di beni che noi pensiamo indispensabili e che comunque nella città lo sono pure divenuti tali, però che in qualche modo le compagne e i compagni, non solo vivendo in campagna, però vivendo e mettendo come priorità la scelta politica di non dipendere dai consumi e da tecnologie non a portata della gente stessa, li porta in qualche modo a farne meno. È un caso che vediamo una famiglia zapatista magari vivere in una casa semplice, tenere un bel pezzo di terra, gli animali, a dedicarsi molto più a avere beni di questo tipo, anche collettivi, e la casa a fianco di una famiglia del governo che riceve aiuti governativi, che hanno la televisione satellitare e cellulare a macchina, poi non hanno neanche i soldi per mettergli la benzina se muoiono di fame, però sì, cadono nella trappola della pubblicità e del consumo sfrenato a cui spinge il neoliberismo. Anche il neoliberismo spinge anche i poveri, è questo che fa fare la povertà, anche uno stato mentale, spingendo i poveri a desiderare ciò che non si possono permettere. Ovviamente sto parlando di un paese come il Messico, che non è come l'Italia, dove l'indice di consumi per certe fette della popolazione è totalmente irraggiungibile. Ora, ritornando qua, quindi non è che abbiamo dei duri e puri da un lato, ovviamente pure le scelte economiche fatte dai compagni sono molto differenti nel contesto qua. Io penso che in realtà non credo che i territori recuperati urbani si possono dare spazio a possibilità e a sperimentazioni di altre economie. Io non credo che si possa in uno spazio liberato e arrivare all'autosufficienza completa, perché la metropoli non è pensata per essere autosufficiente, quindi gli spazi occupati solitamente sono pezzi di metropoli recuperati, però come tali, come la metropoli non è autosufficiente, anche gli spazi recuperati dentro la metropoli non riescono a essere autosufficienti. La città continua a alimentarsi della campagna. Cioè chi dà il cibo alla città continua a essere la campagna, sembra di star parlare i comuni e i feudi, però è quella la realtà, nel senso c'è una parte del mondo che produce il cibo, è vero che c'è l'industria agroalimentare, ma l'industria agroalimentare fra l'altro sembra che raggiunga il 40% della produzione mondiale, il 60-70% della produzione mondiale agricola è ancora in mano a piccoli agricoltori, e per fortuna. Però in realtà la città si alimenta di questo, quindi però io credo sì che nonostante questo negli spazi occupati, forse cioè, ho un'opinione differente dalla tua, però io credo sì, ossia noi dobbiamo provarci. Allora, quello che dice la compagna e credo che è la cosa più importante, cioè non dobbiamo scindere la necessità economica di risolvere i nostri problemi in questo senso dall'autorganizzazione politica, che spesso quella è una delle tante scissioni che ci abbiamo. Io faccio politica in un posto e poi mi arrangio per sopravvivere da una parte, però ovviamente là entriamo nel tema difficile, ci sono degli esperimenti nella città che sono stati fatti, però quando il posto dove abbiamo scelto di fare politica diventa anche il posto di lavoro, porta a un'altra serie di contraddizioni. Io allora non voglio entrare nello specifico le contraddizioni che genera l'autoreddito, per esempio, o le contraddizioni in generale da un posto che rifiuta l'autoreddito e però i cui membri e le cui compagni e compagni devono andare sotto padrone da un'altra parte. È un tema, io penso che non sono neanche solo queste le vie. Bisogna sperimentare anche la capacità di recuperare posti di città, pezzi di luoghi, non solo pezzi di città, ma anche luoghi di produzione, e metterli a lavorare per noi stessi, per la comunità. L'esempio storico in Argentina, la Zanon, no? De operai che hanno rimesso una fabbrica a produzione anche a servizio della comunità, cioè continuare a produrre per vendere una parte e quindi pagarsi i salari, perché inevitabilmente è pure difficile immaginare una vita nella metropoli senza salario, però in forma cooperativa, e il surplus, la produzione che non veniva venduta veniva ridistribuita gratuitamente tra le scuole e negli ospedali a portata del movimento, dove magari c'era il sindacato dei maestri forti, ossia. Cioè, nel senso, non esiste ovviamente una ricetta, però io credo che sì, che sia quasi necessario prendere il tema in mano, il tema dello sfruttamento, perché comunque, ecco, appunto, poi dopo, cioè, se il capitale esiste è perché continua a estrarre follemente plus valore dalle nostre fatiche, e tocca risolvere questo nodo. Io penso che costruire spazi di economia cooperativa è una possibilità immediata, però senza ricadere nelle cooperative formali, nella costituzione di cooperative formali come promosso dallo Stato, ma cercare attraverso gli spazi recuperati della nostra città promuovere momenti cooperativi, forme cooperative che non siano necessariamente il birrificio a trattoria nel nostro posto, ma appropriarci di mezzi di produzione e metterli a disposizione della comunità anche attraverso il rientro economico. E quindi ovviamente queste mo so parole, io neanche voglio dire, quello che penso che sia necessario, come il compagno prima diceva, dobbiamo prendere il tema antiproibizionismo e abuso delle sostanze e parlarne, dobbiamo prendere il tema dello sfruttamento economico di cui tutti siamo parte, di cui tutte e tutte siamo parte, e avere il coraggio di discuterne, ossia che contributo possono dare i nostri pasti, i posti a questo problema, lo possiamo rispondere collettivamente attraverso i spazi sociali, attraverso altre cooperative, come senza avere, secondo me, una visione ideologica sia su no, dobbiamo usare i nostri posti come imprese facendo il rischio di quei tanti posti occupati a Roma che sono diventati un divertimentificio, e però neanche avere magari l'atteggiamento ideologico, questo non è un problema politico, e ridursi quindi a risolvere la questione economica come un problema personale e quindi a diventare schiavo individualmente e a venderti al primo padrone. Bene, sicuramente un tema che continuiamo a affrontare. Abbiamo però una telefonata, andiamo a vedere se ci sente l'ascoltatore. Ci senti? Sì, pronto? Vai, sei in diretta. Ciao, io sono Luca del collettivo Terra Rivolta, sono un nuovo collettivo nato da 4-5 mesi qua a Roma, che sta ragionando proprio sul discorso che il compagno stava facendo adesso in radio, e stiamo cercando di portare avanti attraverso la campagna Terra Bene Comune la riappropriazione di terreni agricoli all'interno di Roma e ai margini dell'agro-romano, perché pensiamo che sia fondamentale, come diceva il compagno, la riappropriazione del territorio per sperimentare sistemi nuovi di vita, e vita che è fatta dall'abitare, ma anche dal lavorare, dai servizi e da tutte quelle infrastrutture, e di cui la lotta messicana, come raccontava il nostro compagno, è un esempio. Cioè, noi pensiamo che è giunto il momento di riappropriarsi del territorio, di fare proposte che siano a 360 come tematica, e quindi che siano non solo capaci di riconquistare spazi abitativi dentro la città, ma appunto attraverso il nostro specifico, che è quello di costruire occupazioni agroabitative e cercare anche un sistema che permette di ricreare modelli economici nuovi che si basino né sui bandi, come sta facendo il comune in questi ultimi mesi, che comune e regione hanno fatto i bandi per l'assegnazione delle terre a giovani contadini, con il chiaro appellativo all'interno del bando per costruire imprenditoria agricola, cosa che a noi non interessa, né attraverso il vecchio sistema di cooperative che anche noi abbiamo sperimentato come compagni. Noi vorremmo lavorare sui territori in modo che fossero i territori a riappropriarsi dei propri spazi vitali, e su quei spazi vitali creare sistemi abitativi e lavorativi che siano capaci di costruire ricchezza aggiunta sul territorio e anche una ricchezza che permette ai compagni, attraverso un sistema di mutualità e solidarietà, di costruire un sistema di scambio che non sia più basato né sulla vecchia cooperativa né sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, come troppo spesso avviene nel sistema capitalistico. E chiudo dicendo che domani alle 18.30 allo spazio Acrobax stiamo organizzando un'assemblea per cominciare a creare una serie di eventi sul territorio di rilancio della campagna Terra Bene Comune, e quindi invito tutti a partecipare domani alle 18.30 ad Acrobax per questa assemblea, così chi è interessato potrà meglio approfondire la tematica. Vi ringrazio, io sono, ripeto, Luca di Terra Rivolta, se cercate su internet troverete le informazioni anche sul nostro collettivo. Vi ringrazio per la possibilità di parlare, saluto grazie tutti i compagni e le compagne, soprattutto chi è privato della sua libertà. Grazie a te, ciao. Panico. Ci siamo? È interessante l'intervento del compagno, ci dà la possibilità di chiosare su questo punto magari delle cose che prima sembravano più teoriche. Lui ha portato degli esperimenti e delle questioni invece vere che ci sono in questo momento nel nostro territorio. Ha portato ad esempio, dopo tante lotte e tante richieste, l'assegnazione che il comune sta facendo in questo ultimo periodo delle terre urbane a delle cooperative. Questo è un esempio classico, no? Un'istanza che è venuta dal basso, che è stata poi trasformata, e in questo momento poi il bando che è uscito fuori vuole assegnare queste terre a dei professionisti, cioè, diciamocelo chiaramente, a una parte della popolazione che già ha i soldi, che già può fare impresa, no? Quindi già dall'intento iniziale dell'istanza che veniva dal basso già è stata un po' cambiata, e poi per esempio magari non vengono tenute in conto tutta una serie di questioni ecologiche, non vengono fatte analisi del terreno, e quindi ecco, questo è un esempio che lui ha portato, un'istanza che viene dal basso, che poi viene trasformata in senso, passatemi il termine, più capitalista istituzionale, perché è mancata una vera autodeterminazione dal basso, no? Di quella faccenda lì. E quindi, appunto, chiudendo su questo punto, volevo dire che non volevo minimizzare i percorsi di nessuno, di nessuna comune, mi sembrano tutti molto interessanti. Bisogna entrare in rete, perché non è vero che per esempio nelle città non abbiamo la possibilità di creare un'economia. Il problema è che non lo facciamo, perché non c'è un'organizzazione, perché altrimenti noi abbiamo strumenti tecnologici, informatici ed economici necessari per esempio in una città come Roma, che è inserita nell'agro romano, una delle città d'Europa più attraversate da lingue di terra e campagna produttiva, di creare un sistema di approvvigionamento alimentare nei nostri spazi. Lo avremmo potuto fare già da 20 anni, non è così difficile, non è nemmeno così oneroso, così come avremmo potuto già mettere in pratica dei sistemi di approvvigionamento energetico nei nostri spazi. Ci sono degli esperimenti, sono minori secondo me, perché ancora non c'è un livello di organizzazione politico che veramente ci unisce tutti con degli obiettivi. Questa sicuramente è una proposta che, diciamo, anche l'intervento prima proponeva. Io però pongo solo l'attenzione su una questione, perché secondo me questa proposta rischia di ridurre la questione economico-produttiva semplicemente al problema dell'approvvigionamento alimentare, mentre a me sembra che siamo in una società che il lavoro lo distribuisce su tante parti, sia dal punto di vista della produzione industriale, tra cui tra l'altro anche la produzione degli stessi attrezzi, delle stesse attrezzature che servono per la produzione alimentare, sia ovviamente per gli altri beni di cui ci serviamo, la casa, insomma. Si può anche recuperare tutte le case che sono già state fatte sicuramente, però se uno pensa anche alla ristrutturazione, anche lì si tratta di metterci altri materiali. Allo stesso tempo tutti i servizi di cui noi ci avvantaggiamo, che vanno da quello della pulizia e dello smaltimento dei rifiuti a quello dell'approvvigionamento idrico energetico, cioè a me sembra che si rischia di pensare che la soluzione è semplicemente quella di trovare una risposta autogestita al problema alimentare, che tra l'altro non so nemmeno quanto proposte di questo genere riescono a risolvere totalmente, perché ricordiamoci bene che non si tratta solo dei prodotti ortofrutticoli. Noi gran parte della nostra alimentazione la riceviamo da grano, da altri cereali che comunque necessitano di grandi quantità sia di terra e di lavoro per essere prodotti, quindi non vorrei che queste proposte rischiassero di essere solo una risposta parziale a tutto questo, e poi comunque ci costringono a stare all'interno del mercato, che non è una questione di purezza, è proprio una questione del fatto che io subisco su di me le conseguenze del mercato. Quindi se c'è una crisi economica generale, io subisco questa cosa. Se comunque mi tocca andare a lavorare, oltre a fare queste cose, subisco le conseguenze di questa mia necessità di avere dei soldi. Se io devo vendere questi prodotti, sono dipendente dal mercato. Quindi mi chiedo, è possibile creare un'altra economia all'interno dei gangli dell'economia capitalista, effettivamente, non per ragioni di purezza o no, ma proprio per ragioni di funzionalità? Oppure la questione è proprio quella di togliere questa economia capitalista per gestire in maniera diversa la produzione, in maniera come anche ci indicano, penso, i compagni zapatisti. Insomma, mi sembra una questione importante, anche perché su questo si risolvono molte dei dibattiti che poi ci sono all'interno dello stesso movimento sociale antagonista, per quanto composito è oggi in Italia. Insomma, è possibile costruire un'alternativa ai margini di questo sistema, o dobbiamo abbattere definitivamente questo sistema? Beh, questa è una domanda da un milione di rivoluzioni. Però credo che a mia volta mi permetto di mettere, di stare attenti pure però a creare, a metterci in bivi che forse non esistono. Allora, la capacità, io vedo che la capacità dei zapatisti appunto è quella di non fermarsi al proprio territorio, di vedere a scala globale, agire localmente, vedere a scala globale, per cui non dire che hanno vinto, hanno liberato un pezzo di territorio, hanno liberato un pezzo di vita e l'hanno epurato il più possibile dalle forme viziate del capitalismo e dello Stato. Ci convivono in parte, ne sono parte in maniera molto più marginale che noi, però li stanno. Però ovviamente, dice, la liberazione non può essere tale se non cambiamo tutto il Messico, e se non cambiamo addirittura tutto il mondo, il sistema economico. Per cui per questo è un movimento anticapitalista dal basso a sinistra. È anticapitalista, non è solo localista o indigeno. E così noi. E io spesso quello che sento non è tanto io credo che ci stiano nascendo in realtà esperimenti molto molto interessanti nelle campagne, fra l'altro italiane, come l'intervento del compagno, perché sono esperimenti che le campagne si stanno ripopolando anche di compagni e compagne, perché comunque la asfissiante economia cittadina non soddisfa più, la necessità di ritornare alla terra non è solo romantica, è proprio... è forse umana. Io ho letto in Crack Capitalism John Holloway, che ha scritto che in realtà è un teorico della corrente del marxismo aperto, che ridefinisce la proposta marxista in base all'esperienza con gli zapatisti. John è un compagno che viene spesso in comunità in Chiapas, e lui dice, mi ricordo un passaggio che ho sottolineato, dice: il peccato originale del capitalismo è la separazione che ha fatto dell'uomo dalla natura, l'uomo della capacità di provvedere a se stesso attraverso la terra. Allora, questo è il peccato originale del capitalismo. Quindi non è solo, sì, tu dici forse rischiamo solo di preoccuparci dell'economia in campo alimentare, ma l'economia in campo alimentare è quella che permette l'autosufficienza, per cui se un giorno c'è una crisi, ma io sono in grado di provvedere a me stesso attraverso ciò che mi alimento, questa crisi sicuramente intaccherà meno nella mia vita. Ovviamente è quello, il problema è produrre non per immettere in un mercato, ma produrre per soddisfare una comunità, non solo individualmente ma una comunità. Questo è un passo. Io guardo con ottimismo perché sento che le ultime proposte che vengono dalle campagne, o per esempio quello che si scuderà domani a Agrobax, però anche altri sforzi, mi viene da citare Genuino Clandestino, ma ce ne saranno altri che io non conosco, è che i compagni stanno facendo un'analisi anticapitalista nel recuperare la terra, e questo è forse quello che si era perso nelle varie esperienze fatte dall'associazionismo o anche dalle comuni di un certo periodo storico, no? E la capacità di comunque intervenire nelle campagne, lavorarle collettivamente con una prospettiva anticapitalista, E questo, e poi io mi rimetto alle decisioni dei compagni che fanno, che partecipano a questi sforzi, no? Non sono qui in grado adesso, per non conosco così nel dettaglio per poter, e non è forse neanche lo spazio di discutere come lo stanno facendo, se va bene va bene, l'autonomia è anche questo, ognuno sperimenta i propri percorsi. Quindi io in realtà l'esperienza zapatista ci insegna anche che ritornare alla terra non è un ritorno bucolico e romantico, ma è strategicamente anticapitalista in realtà. Cioè, noi viviamo in una società industriale, anzi forse post-industriale come la definiscono alcuni, però questa è parte di una deriva che la città l'ha costruita il capitale come per concentrare la forza lavoro, per concentrare il flusso di merci, per smistarlo secondo la logica del capitale. Quindi noi siamo vittime di un territorio che non abbiamo espresso e costruito e codificato noi, siamo nati in una città e ne subiamo il paesaggio urbano e via. E mentre chi vive nelle campagne, per esempio i zapatisti, no, loro sono nati nel territorio ancestrale loro, quindi lo difendono, noi lo dobbiamo modificare. Quindi io penso questo. Ovviamente quello che penso è che non c'è soluzione intermedia al capitalismo, anche perché il mostro capitalista è capace di sussumere qualsiasi cosa. Cioè, quanti sforzi dei compagni, quante iniziative di questo tipo il capitale ha assorbito e rivenduto in continuazione. Quindi questo è un mostro. Per questo invece pongo la fiducia nelle scelte anticapitaliste di chi oggi sta ritornando a lavorare la terra. Però l'altro lato è sì, si possono fare dei passi intermedi, perché proiettare il cambiamento solo dopo la distruzione del sistema capitalista significa paralizzarci. Invece noi dobbiamo, cioè quello che stiamo dicendo, se non ci sarà la vittoria definitiva e assoluta, perché non esiste una rivoluzione con la R maiuscola, ma è un processo quotidiano che trasforma realmente i territori, dobbiamo sperimentarci da subito. È ovvio che oggi possiamo fare poco o possiamo fare certe cose nello spazio occupato, domani quando ci avremo un quartiere intero sottratto alla polizia, allo Stato, probabilmente vorremmo fare molto di più di quello che possiamo fare in un posto occupato. Però questo non ci esime dal farlo già adesso, subito, perché altrimenti se proiettiamo, a me mi fa paura spostare tutto al giorno. Sì, il capitalismo deve, cioè dobbiamo trasformarlo, però dobbiamo eroderlo questo sistema, non possiamo aspettare il giorno dell'assalto al Palazzo d'Inverno. Ok, abbiamo una telefonata, vediamo se è ancora in linea. Ci senti? Pronto? Pronto? Vai, sei in diretta. Allora, io trovo estremamente interessante le cose di cui state discutendo e credo che rispetto a questo sia fondamentale riuscire a capire che cos'è che non ha funzionato nell'esperienza leninista e soprattutto tenere in conto delle esperienze dei mercatini rossi e delle società cooperative in passato. In estrema sintesi, secondo me quello che manca è un criterio di ripartizione della ricchezza condiviso. Secondo me quindi è in quella direzione che va sviluppato il tutto ed è per questo che non ha mai funzionato. Cioè, se noi prendiamo ad esempio come riferimento la Coppa Estense, è partita come una cooperativa rossa ma poi è immediatamente ricaduta all'interno di un modo di ripartizione della ricchezza capitalistico, perché non hanno Pronto? Sì, sei in diretta, ho staccato i microfoni. Pronto? Pronto, mi senti? Sei in diretta? Male. Noi ti sentiamo bene, tu non ti preoccupare. Vai, sì, parla. Sì, dicevo perché probabilmente, ma non era nemmeno, diciamo, questa è una cosa che non era nemmeno ipotizzabile, nel senso che comunque ci si muoveva all'interno dell'ipotesi leniniana dell'autonomia del politico, per cui non c'è mai nemmeno posto il problema. Ma lì quello che non ha funzionato è stato questo, cioè è stata la mancanza di un criterio di ripartizione della nuova ricchezza prodotta che sia condivisa e che ovviamente rispettasse il punto di vista comunista. L'altra cosa che volevo dire, poi chiudo, anche se però vorrei, non so se voi avete un sito, magari ci sentiamo attraverso il sito, oppure dimenticato, vabbè, insomma fondamentalmente è questo quello che volevo dire. Bene, io ricordo il sito del Nodo Solidale www.autisti. Pronto, mi senti? Male, malissimo. Noi ti sentiamo bene, tieni la radio accesa, ci senti da là? No, sono in un internet post. Ah, ok, No, dicevo che il sito internet è www.autistici.org/nodosolidale, il sito del nodo. Economia solidale? Nodo solidale. Nodo? Sì. Bene. Se non hai... vuoi fare lo spelling? Autistici, allora, poi? autistici.org sì. O-R-G, slash, O-R-G slash nodo solidale Napoli Otranto Domodossola Otranto Savona Otranto Livorno Imola Domodossola Ancona Livorno Empoli. Benissimo, guarda, io magari ci sentiamo attraverso il sito. Bene. L'unica cosa che volevo dire è questo, secondo me quel che manca è questo. E ecco, questa era l'altra cosa. E oggi secondo me ci sono gli strumenti per poter definire un criterio di ripartizione comunista condiviso. Bene, grazie mille e allora ci risentiamo. Pronto? Pronto? D'accordo, soltanto questo volevo dire. Bene, grazie. Grazie, e ciao. Complimenti per la trasmissione che secondo me finalmente ha toccato il punto centrale e nodale, insomma. Grazie, grazie mille. Grazie. Ciao. Arrivederci. Bene, io non so quanto altro vogliamo parlare, insomma, mi sembra che abbiamo anche esposto bene le nostre posizioni, poi ovviamente il dibattito prosegue sia da questi microfoni, sia nelle iniziative, sia poi nelle pratiche che facciamo, perché ovviamente questo è un momento di dibattito, ma non è un dibattito tra persone che poi tornano a casa e si fanno gli affari loro, insomma, è anche un dibattito che ci serve per la pratica, anche per questo che abbiamo scelto di parlare dell'esperienza zapatista, perché è un'esperienza reale che può insegnarci tanto, al di là poi dei dibattiti teorici che spesso rimangono un po' a livello di teoria e spesso sono anche pericolosi perché alcune teorie impediscono proprio di fare la pratica. Invece io penso che un insegnamento che importante che possiamo trarre di questa esperienza è che sì, c'è una teoria dietro, c'è un dibattito, c'è una strategia per quanto aperta, però la cosa importante è essere ben disposti rispetto alla realtà che affrontiamo, a dialogare con la realtà, essere umili, non pensare di avere una posizione da imporre a un contesto e essere anche, non arrabbiarci quando questo contesto, quando questa realtà non aderisce alla nostra teoria, ma modellare la nostra teoria pure sulla realtà. E questo è, penso, un insegnamento che vale per ogni tipo di impostazione. Poi insomma sulla soluzione ci sarà anche molto da discutere, insomma, proprio perché adottiamo questo tipo di rapporto con la realtà, non pensiamo che una soluzione che decidiamo nella nostra testa e che poi imponiamo alla realtà, ma una soluzione che costruiamo in un rapporto dialettico con essa. Io penso che su questo è un po' una conclusione che vogliamo trarre da questo dibattito che è durato 3 ore. Siamo contenti che sono anche intervenute numerosi ascoltatori e ascoltatrici, e non so se voi volete aggiungere qualcosa, se no diamo appuntamento o alle montagne del Chiapas o alle vie della metropoli romana. No, io volevo solo ringraziare Onda Rossa, visto che abbiamo detto fino adesso di quanto sia difficile portare avanti questi discorsi anche nei nostri spazi. Onda Rossa, insomma, è una garanzia da tanti anni, no? Di una voce possibile per tutte le possibilità, tutte le realtà. Bene, non so se volete aggiungere qualche valutazione, se no salutiamo, anch'io mi unisco ai saluti a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Sì, io in realtà, che se no non finiamo più però, è solo chissà se un'altra volta potremmo approfondire solo la parte di produzione dell'economia interna zapatista. Però sicuramente quando parlava di nuove forme cooperative, come spero si possano riprodurre anche qua e crescere. E i compagni e le compagne zapatiste, quando formano una cooperativa, definiscono di solito un'entrata minima, però tutto il guadagno, per esempio la vendita del caffè, si stabilisce un'entrata minima per ogni coltivatore, si mette insieme il raccolto, quando si riesce a vendere soprattutto questo raccolto all'estero o in città in generale, tutti i guadagni vanno alla costruzione del progetto rivoluzionario. Cioè, quindi comunque i compagni e le compagne fanno una scelta, anche quando io dicevo la frugalità dello stile di vita non è solo perché vivo in campagna con la casetta di legno, cioè io scelgo che il mio raccolto, una volta soddisfatte le mie necessità fondamentali, tutto il guadagno va al mantenimento di quello che poi mi ritorna, cioè la clinica autonoma, la scuola autonoma, una sorta di autotassazione, però sui profitti, mantenendo una dignità di vita. Quindi questi sono meccanismi da ripensare, per esempio, non lo so se potrebbe funzionare qua, quanto sicuramente il livello di ingresso di ogni socio di una cooperativa sarà sicuramente più alto di quello di un capitalista, considerando il contesto metropolitano, però il fatto di lavorare e che parte del nostro lavoro in realtà vada alla costruzione di un progetto alternativo, non l'ho sentito spesso qua anche nei posti occupati, però in realtà è un contributo importante che ogni donna, ogni uomo in Chiapas fa. Non è solo che hanno costruito, cioè come hanno costruito queste scuole, se terre collettive comunque le lavorano, non è che da sole danno i frutti. Quindi impiegare del tempo, impiegare tanto tempo, di cui anche tempo di lavoro, per la costruzione di una società altra, non è solo svolgere gli incarichi assegnati o avere una mansione in questo, è anche lavorare e quindi comunque rinuncia a una ricchezza personale a cambio di una ricchezza sociale. Quindi questo era anche per far riflettere. Per il resto mi fermo qua, perché se non andiamo avanti, per tornare ancora una volta a ringraziare anche l'ascoltatrice e gli ascoltatori che hanno telefonato, perché speriamo che possa, che sia stato fertile il dibattito, che possa far crescere proposte, che serva insomma a qualcosa. Dal nostro canto continueremo nello sforzo di tradurre materiali, e siamo disposti, andiamo nei posti dove ci invitano anche a parlare, a discutere di come i compagni e le compagne zapatiste portano avanti, anche se qualcuno è interessato su temi specifici, per approfondire ci potete contattare nel nostro sito, che ripeto è www.autistici.org/nodosolidale. E ancora una volta un ringraziamento a Radio Onda Rossa e un abbraccio speciale alle compagne e ai compagni rinchiusi nelle galere.